Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta su Radio 24 con Si può fare. Staremo insieme fino alle 11, tra poco. Un'occhiata velocissima al giornale di oggi per chi non avesse già ascoltato la rassegna stampa più approfondita fatta un'oretta fa circa dal nostro Mauro Meazza. Poi l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Cominceremo dopo il giornale radio delle 9 con i nostri approfondimenti di attualità settimanale a caccia sempre di buone notizie. Cominceremo con un'intervista al sindaco di Bari, De Caro, con il quale faremo il punto da un lato sul taglio dei trasferimenti ai comuni, insomma sul taglio della spesa imposto ai comuni. In settimana c'è stato un accordo con il governo, vedremo una città grande e importante come Bari come si sta organizzando su questo fronte. Poi le nuove regole per la movida a Bari, un tema interessante visto anche l'arrivo della bella stagione, escluso la giornata di oggi che con la bella stagione non ha molto a che vedere, almeno dalle parti di Milano. Poi sempre un tema della settimana, parleremo con una ONG che si occupa di immigrati e cercheremo di capire come e perché sono riusciti loro a consegnare alle Nazioni Unite una lista con almeno i nomi di 20 trafficanti di uomini. Se ci sono riusciti loro, ci dovrebbero riuscire anche le autorità internazionali. Adesso cominciamo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, dicevamo, i giornali di oggi, cominciamo da tutte le parti. I titoli principali sono dedicati alla grave, purtroppo, tragedia avvenuta in Nepal, con insomma le cifre aggiornate, le avete sentite anche il giornale radio di poco fa, si parla di più di 2000 vittime. E poi naturalmente echi della celebrazione d'Italia il 25 aprile e poi insomma anche l'apertura della settimana politica che si annuncia intensa sul fronte anche dell'Italicum. Ieri dichiarazioni incrociate da parte dell'ex segretario del PD Bersani, come sapete la minoranza del PD che scalpita perché è contraria, ha detto che insomma porre la fiducia sull'Italicum è una pressione indebita sul Parlamento. Ha risposto il ministro Boschi che ha detto sostanzialmente nessuna pressione. E infatti i giornali di oggi hanno nelle indiscrezioni la decisione già in pratica formalizzata del PD di porre la fiducia sull'Italicum. Cominciamo con il Corriere della Sera. Migliaia in Nepal sotto le macerie è il titolo principale. Distrutto il centro della capitale Kathmandu, crolla la torre simbolo patrimonio dell'UNESCO. Una scossa, i terremoti di magnitudo 7.8. La corsa contro il tempo per estrarre i corpi, la valanga che si è rovesciata anche sull'Everest, sono morti 18 alpinisti stranieri. È interessante capire insomma, l'entità di questo terremoto. Da cosa deriva? Deriva come sempre dalle faglie, dagli scontri tra le placche che scorrono l'una contro l'altra sotto il suolo della terra. E l'analisi è questa. L'area su cui si è scatenato, la fa Giovanni Caprara sul Corriere, l'area su cui si è scatenato il terribile sisma 7.8 di magnitudo era considerata da tempo ad altissimo rischio perché si aspettava che potesse succedere. Così Alberto Michelini, direttore del Centro Nazionale Terremoti, l'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Il motivo era che da varie centinaia di anni la Terra era immobile in quell'area lì, dove invece è in atto uno scontro geologico titanico, perché qui la placca indiana, viaggiando verso nord alla velocità di 5 centimetri all'anno, scivola sotto la placca euroasiatica sollevandola. cioè la placca indiana va verso nord 5 cm all'anno e quella euroasiatica gli va sopra praticamente. E così è nata, pensate, anche la catena dell'Himalaya in migliaia di anni, le cifre non so, lo dico io, ma forse sono anche di più. Per fare un confronto, la nostra linea degli Appennini si muove verso le Alpi di circa 2 mm all'anno, cioè quindi 2 mm all'anno contro 5 cm all'anno. Pensate, la differenza della velocità è abbastanza impressionante. E quindi questo spiega quello che è accaduto dal punto di vista geofisico in Nepal. Dal punto di vista invece, per esempio, anche del patrimonio culturale che è stato toccato, la torre simbolo di Kathmandu, scrive Pietro Verni, è crollata l'imponente Bhimsen Tower, scusate, la torre di Dharawara, alta oltre 60 metri, già restaurata dall'UNESCO dopo il terremoto del 1934, ma è tutto l'universo artistico della valle di Kathmandu ad essere stato aggredito dal sisma. Il valore culturale di questi luoghi è immenso. La capitale del Nepal e le vicine cittadine di Patan, Bad Gohan costituiscono tesori di valore inestimabile e custodiscono tesori di valore inestimabile e costituiscono una sorta di museo all'aperto dell'architettura asiatica, in modo particolare di quella religiosa. Cambiamo argomento e andiamo sul tema dell'Italicum, perché dicevamo settimana importante per quanto riguarda il passaggio parlamentare. Intanto il Corriere riporta il sondaggio di Nando Pagnoncelli secondo il quale il 51% degli italiani dice no, direbbe no all'Italicum, una percentuale che però è scesa da dicembre dell'anno scorso, era il 55%, adesso è scesa al 51%. È salita dal 55% al 61%, avevo letto male, e quindi diciamo gli italiani su un argomento che però conoscono poco, perché il 58% dice che ne sa poco della legge elettorale, sono sostanzialmente contrari. Il motivo principale è la questione dei deputati che saranno eletti con in 100 collegi e con i capilista bloccati, scelti dai partiti, e questo diciamo non piace al 70% degli italiani. Repubblica però riporta le notizie dicevamo prima, cioè come retroscena l'affondo del premier, pronti 4 voti di fiducia e tempi contingentati, basta coi giochetti. La decisione, scrive Francesco Bei, è presa, la fiducia, anzi le fiducie sull'Italicum a questo punto sono scontate, basta, portiamo a casa il risultato, è l'indicazione data ancora ieri mattina da Renzi ai suoi. Quindi insomma si va verso un voto di fiducia su questa legge elettorale. Come ha detto Renzi, se non viene votata la legge elettorale il governo va a casa. Abbiamo già detto, per Bersani questa è una pressione inaccettabile sul Parlamento, porre il voto di fiducia e quindi ricattare il Parlamento su questo tema. D'altra parte è vero che bisogna ricordarlo, che il governo Renzi nato con un'alleanza anomala sulla di quello che era accaduto anche col governo Letta, da centrodestra e centrosinistra, poi ridottosi all'alleanza col nuovo centrodestra, ma insomma tant'è, aveva tra i suoi punti di partenza proprio la riforma della legge elettorale, bocciata dalla Costituzione, dalla Corte Costituzionale, quindi una legge elettorale ci vuole, ma appunto tant'è, perché si va avanti di una, però ecco appunto la notizia è anche questa, si slitterà il voto di una settimana probabilmente, perché il governo ha scoperto che se la legge elettorale va a maggio diciamo cade il tema del contingentamento degli interventi dei parlamentari. Leggiamo perché ho fatto un po' di casino, andiamo per ordine perché stamattina non giro. In queste ore a Palazzo Chigi si sta ragionando sulla possibilità di far slittare tutto lo sconto sulla legge elettorale alla prossima settimana, saltando aprile. Il motivo è semplice: a maggio scatterà il contingentamento dei tempi con una drastica tagliola sulla possibilità di fare ostruzionismo, mentre ad aprile ogni deputato potrebbe in teoria parlare per 20 minuti su ciascun emendamento. Quindi a maggio si avvicina l'estate, c'è il contingentamento dei tempi, quindi conviene aspettare una settimana e mettere l'acceleratore all'Italicum. Questo almeno quello che scrivono i giornali oggi. C'è anche l'intervista al segretario delle Nazioni Unite, generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sul tema dell'immigrazione. Intervista che è sulla stampa ma anche sul secolo XIX. Sbagliato colpire i barconi in Libia, aiutiamo i profughi. Questo, diciamo, è il titolo e anche un po' il leitmotiv della presa di posizione del segretario dell'ONU qualche giorno dopo che invece il Consiglio europeo straordinario riunitosi a Bruxelles ha, diciamo, mandato anche questo messaggio su richiesta dell'Italia: siamo pronti a intervenire, vogliamo bombardare i barconi prima che partano, eccetera eccetera. A domanda precisa risponde Ban Ki-moon: al Consiglio europeo di giovedì sono state varate alcune misure per affrontare la crisi dei migranti. L'Italia vorrebbe distruggere i barconi prima della partenza. L'ONU è pronta ad autorizzare simili azioni? Risposta, diciamo, un po' evasiva del segretario generale delle Nazioni Unite, nel senso che non risponde direttamente alla domanda, però fa capire che no, l'ONU non è d'accordo. Dice Ban Ki-moon: il focus principale delle Nazioni Unite è la sicurezza e la protezione dei diritti umani dei migranti e di coloro che chiedono asilo. I loro viaggi sono carichi di rischi, inclusa la discriminazione, la violenza, lo sfruttamento. Hanno bisogno della nostra protezione nella loro ora di maggiore necessità. Non c'è, ecco questo è il punto, una soluzione militare alla tragedia umana che sta avvenendo nel Mediterraneo. È cruciale un approccio complessivo che guardi alla radice delle cause, alla sicurezza e ai diritti umani dei migranti e dei rifugiati, così come avere canali legali e regolari di immigrazione. A un certo punto sembra quasi che Ban Ki-moon sposi la tesi leghista del aiutiamoli a casa loro. Poi però dice che bisognerebbe aprire canali regolari per l'immigrazione, solo che non si capisce chi dovrebbe farlo se non proprio le Nazioni Unite, che forse ne avrebbero l'autorità, e di questa cosa si discute da anni, ma questa cosa non accade mai. Il tema poi della Libia, un'altra domanda a Ban Ki-moon sulla stabilità della Libia: sono molto preoccupato per l'instabilità in Libia, il mio rappresentante speciale Leon e la sua squadra continuano a lavorare in maniera instancabile con le parti libiche coinvolte per aiutare ad arrivare insieme ad uno spirito di compromesso. Quindi anche qui, diciamo, nessuna apertura a un possibile intervento in Libia. Ci stiamo lavorando, dice Ban Ki-moon a proposito appunto della Libia. E anche lì l'Italia invece insomma, dopo il colloquio tra Renzi e Obama, hanno parlato sicuramente anche di Libia, ha chiesto più volte, però forse in maniera non formale ancora, che ci sia in qualche modo un ombrello delle Nazioni Unite più ampio per un intervento più incisivo in Libia. Andiamo su qualche altro giornale per qualche altro titolo velocemente. Cominciamo sulle 24 ore. A proposito, il mondo è meno disuguale, scrive il Sole, a proposito del rapporto Fondazione Human Sole 24 Ore. Il mondo è meno disuguale, una buona notizia. Quindi in Italia però cresce il divario nord-sud. Nel nostro paese 9 milioni di esclusi, oltre la metà si trovano nel mezzogiorno. Questo è un approfondimento di carattere, insomma, di politica economica e culturale del Sole 24 Ore. Tra poco saremo sul domenicale del Sole 24 Ore. Invece Libero si incarica di riportare una, diciamo, questa notizia che riguarda il nostro debito pubblico. Perché i conti non tornano? Una bomba sotto il debito pubblico. Per farsi belli col calo dello spread e piazzare botte BTP, Monti e Renzi, scrive il quotidiano di Belpietro, hanno siglato accordi suicidi con le banche. Così ci siamo riempiti di derivati che ci fanno perdere decine di miliardi e il nostro rosso cresce sempre di più. A cosa si riferisce Libero con l'articolo di Franco Bechis? Si riferisce a questo: ammontano a quasi 37 miliardi di euro le perdite potenziali nei conti pubblici italiani legate ai derivati. Si tratta della massa di derivati finanziari in passivo nei bilanci dello Stato, voce che nell'ultimo anno si è allargata di quasi il 30%, arrivata a quota 36,8 miliardi. Ci fermiamo, anzi no, prima di andare sul traffico sentiamo, ce l'abbiamo, una buona notizia di questa settimana, vai! The good news. Allora, parliamo di trasporto pubblico locale, di, insomma, dei pendolari, eh? C'è in arrivo una buona notizia, una piccola buona notizia, non ci allarghiamo, perché non ci mettiamo a sognare quando parliamo di pendolari. Però la notizia è questa: c'è allo studio la riforma del trasporto pubblico locale, disegno di legge sul trasporto pubblico locale, che è pronto per l'esame del Consiglio dei Ministri, forse già la settimana prossima. E, tra le varie cose che prevede, prevede la possibilità di detrarre dalle tasse il costo degli abbonamenti. Ebbene sì, insomma, un modo per dare una mano a chi ogni mattina, per necessità o per scelta, invece di ingorgarsi con la macchina in mezzo al traffico, decide di ammucchiarsi dentro i mezzi pubblici, quindi di togliere un po' di traffico, anche di arrivare prima forse al lavoro, mezzi pubblici permettendo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua con Si può fare, di nuovo in diretta, e buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori. È il momento di andare sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e diamo la buona domenica ad Armando Massarenti. Ciao Armando. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qua, allora Armando, una copertina la vostra che insomma non potevate sapere di quello che è accaduto in Nepal naturalmente, però una copertina che ci rimanda comunque in Oriente in qualche modo. Sì, ci rimanda in Oriente, in realtà sì, in qualche modo ci rimanda al dialogo tra culture, perché qui stiamo parlando di un grande imperatore della Cina Kangxi, che è stato il più grande imperatore della Cina quando è stato appunto un impero, ed è una storia molto, molto raffinata quella che ci racconta Massimo Firpo, proprio di una spedizione che Luigi XIV fece nel Settecento, era una spedizione dei matematici, e Bouvet, Joachim Bouvet, di cui è uscito adesso appunto un libro da Guanda, l'imperatore della Cina, fu uno di questi gesuiti che andarono in Cina, e lo spirito era quello di Matteo Ricci, insomma, di quello di andare a cercare le affinità intellettuali, morali, religiose, cercare una cultura del dialogo, e nel risultato poi al ritorno di questo viaggio questo ritratto molto bello che oggi viene proposto appunto da Guanda con una introduzione e traduzione di Michela Catto. Ne scrive il nostro Massimo Firpo, che è un importante storico di quel periodo, e insomma è una copertina molto raffinata e insomma che rimanda a valori chiaramente universali e importanti che riguardano il dialogo tra le diverse culture. Il titolo è Il Re Sole del Celeste Impero, perché si fanno dei parallelismi proprio tra le virtù in questo ritratto di Bouvet, tra l'imperatore Kangxi e le virtù appunto del massimo regnante d'Europa di allora, che era appunto Re Sole Luigi XIV. E questa è la copertina. Io vorrei fare, se vogliamo andare anche sull'attualità, ancora di più sull'attualità, mi piacerebbe leggere, leggo proprio un pezzetto di un articolo, poi vediamo di che si tratta. È stata Belen, all'anagrafe Maria Belen Rodriguez, a esprimere le considerazioni più pertinenti a proposito della condanna a 13 anni e 2 mesi di carcere inflitta a Fabrizio Corona. La donna, a quanto si sa, non viene da severi studi giuridici, ma è evidentemente dotata di buon senso e soprattutto conosce la personalità del condannato, col quale ha avuto una lunga relazione, e la sua particolare patologia. Lui ha un problema, dice lei, ha fatto degli errori, ma in realtà l'unico problema che ha sono i soldi. Troppo ancora... pochi o troppi? Chi lo sa? Troppi. E ancora, secondo me, la condanna che dovevano dargli è una grandissima multa salata e basta. Lui è in galera perché ha una malattia per i soldi, afferma Belen in un'intervista di qualche tempo fa. Ecco, a dire queste parole, a introduzione di un problema serissimo che è quello del nostro sistema penale e soprattutto delle carceri, è Luigi Manconi. Sì, devo dire tra l'altro che è curioso che si intreccino le sorti di uno studioso, serioso, un politico anche come Luigi Manconi, esatto, e la storia appunto di Belen e Fabrizio Corona. Però il, esatto, tema è quello del carcere, no? Alla è fine. Quello del carcere, ma è come anche questa intuizione delle pene alternative, no? E appunto il volume che viene qui introdotto è Abolire il carcere, che esce proprio in questi giorni, e come vedete, insomma, cultura alta e cultura popolare si possono unire molto felicemente, no? In certi casi lo vediamo molto bene proprio in questo caso, e su un tema così serio che peraltro noi della Domenica abbiamo trattato varie volte, anche trattando per esempio l'anniversario di Beccaria, dei delitti, delle pene, e appunto di questo qua si parla, come trovare delle pene più giuste, più pertinenti, andando a colpire veramente, quindi per essere davvero un deterrente rispetto al crimine, in questo caso il vero deterrente è appunto una multa salata, visto che è lì che va colpito, e non certo in qualche cosa, dice Manconi, di inutile come il carcere, che poi non produce gli effetti, mai gli effetti che si desiderano, anzi produce tante sofferenze inutili. Ecco, questo è un tema molto serio, ma come vedete trattato, sì, anche in maniera che tutti possano comprenderne la portata. Un altro modo, un'altra cosa che forse può interessare molto un pubblico generale è proprio forse il tema della mia rubrica, Filosofia Minima, che parla di un libro utilissimo a tutti, Paolo Allegrenzi, 6 esercizi facili per allenare la mente. Ora, di questi generi di libri ne sono usciti tantissimi, no? Su come si allena la mente, su come si mantiene la memoria. Qui parliamo, qui intanto a scrivere è uno dei più grandi psicologi, non solo italiani, ma a livello internazionale, e che fa proprio 6 esercizi che poi sono quelli più utili, sì, anche nei test che i nostri ragazzi devono tenere per entrare per esempio nelle università di eccellenza. Sono esercizi davvero, diciamo, molto facili, almeno uno o due, vai. Ah, così. Beh, se ne vogliamo, diciamo uno, io poi volo abbastanza alto, ma l'esempio è abbastanza semplice. Sì? Noi pensiamo, sapete che Karl Popper, il più grande filosofo del Novecento, era famoso per il falsificazionismo, cioè noi non dobbiamo cercare di verificare le nostre intuizioni, ma dobbiamo cercare semmai le asserzioni che le falsificano, no? Che le rendono false. E questo, anche questo tra l'altro, è un bel esercizio di pensiero aperto, no? Di pensiero antidogmatico. Ecco, il primo esempio proprio che lui fa, che fa Allegrenzi, è proprio questo. Se io ti do una serie di numeri, 2, 4, 6, e ti dico qual è la regola che ha generato questi numeri, no? A quest'ora dire, di domenica mattina potrei avere qualche problema, però non so. È facile, no? 2, 4, 6, la tabellina del 2. Saranno, esatto, oppure saranno i numeri pari, per cui magari tutte le triplette che sono più, sì, o meno così, tipo 8, 10, 12, no? Triplette di numeri pari, che appunto a distanza di 2 e successive, allora tu potresti dire, beh, la regola che sta dietro qua è numeri pari che saltano soltanto di 2, no? Di 2 in 2. Non per esempio 8, 16, 26, ma 8, 10, 12, 12. Ebbene, non sarebbe però quella la regola, perché nel momento in cui io ti dico che anche 3, 5, 7 obbedisce alla stessa regola, allora a questo punto uno, la sua intuizione di fondo andrebbe in confusione. Quindi l'esercizio che lui ci spinge a fare è proprio, sì, quello di non essere dei verificazionisti, non cercare di confermare la nostra intuizione, perché non capiremo mai qual è la regola, ed è questo che ci chiede il test, ma dobbiamo pensare a delle serie alternative e chiedere se fanno parte o meno di quella regola. No? Se per esempio io dico 5, 10, 23 e mi si dice che fa parte lo stesso della regola, è chiaro che non c'entrano niente nei numeri pari, nel fatto che siano 2 e 2. Oppure se io chiedo, ma se io dico 7, 5, 2, allora ci posso arrivare, perché se mi si dice che non rispetta la regola, allora la regola è semplicemente numeri successivi, indipendentemente che siano pari o dispari, ma semplicemente che vanno in ordine ascendente, e quindi tutte le serie che vanno in ordine discendente non rispettano la regola. Questo è un esercizio semplicissimo, ma che, sì, dice una cosa importantissima sul nostro modo di ragionare, soprattutto sul fatto che noi siamo portati ad avere delle intuizioni che poi alla prova dei fatti si rivelano fallaci. Semplificazionisti, troppe semplificazioni, non bisogna, esatto, cadere nei tranelli. No, ci fidiamo troppo delle nostre, sì, intuizioni, no? Questa è la vera lezione che ci dà la psicologia oggi. No? Ricordaci gli estremi anche di questa piccola recensione, certo, perché così, sì, se abbiamo incuriosito qualcuno, magari può essere un modo, oltre che per andare a prendere, certo, il domenicale, ma anche per... Lo ripeto, sono 6 esercizi facili per allenare la mente di Paolo Allegrenzi. e l'editore è Cortina. Senti, a centro domenicale, diciamo così, affrontate anche, insomma, una settimana all'inizio di Expo, un'agricoltura immersa nell'innovazione. Insomma, si è detto molto sul fatto che questi contenuti di Expo sono ancora un po' così, un po' oscuri, forse adesso che ci avviciniamo un po' meno. Qual è il taglio che date a questa cosa in un minuto, perché poi dobbiamo chiudere? Questa è una nostra scelta. C'è anche una piccola prefazione di Matteo Renzi ad un libro importante che parla del tema di Expo, che è di Paolo De Castro. Il libro si intitola Cibo, la sfida globale, e l'esempio è perché è un'agricoltura immersa nell'innovazione, perché vogliamo insistere sul fatto che l'innovazione, insomma, non cerchiamo di rifugiarsi in certe idee un po' primitiviste di cosa deve essere il cibo, un ritorno a qualche età dell'oro che non esiste più. Pensiamo invece al tipo di, e torniamo qui in Bangladesh, alle alluvioni, alle grandi catastrofi naturali, peraltro provocate dallo stesso uomo, ma che poi trovano delle soluzioni, e qui citiamo lo scuba rice, il riso subacqueo, che è un riso OGM che quando ci sono queste alluvioni riesce a stare sott'acqua molto più tempo del riso normale, che altrimenti marcisce, no? Quindi una soluzione tecnologica è solo un esempio, ecco, di quello che proviamo in queste due paginate, dove poi l'idea di fondo è che innovazione, ricerca, cultura sono il vero motore dello sviluppo. Una delle tante vie per nutrire il pianeta, che è appunto il tema centrale di Expo. Grazie Armando, noi ci fermiamo qua perché adesso c'è il giornale radio, ci ritroviamo domenica prossima con il domenicale, invece con Si può fare ci risentiamo appunto dopo il GR, più tardi. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Tra poco inizierà la puntata vera e propria, sentiremo il sindaco di Bari, De Caro, per capire a che punto è la vicenda dei tagli ai comuni. In settimana c'è stato un accordo tra il governo e i comuni, vedremo una città grande come Bari come sta affrontando la spending review, e poi parleremo delle nuove regole della movida a Bari. Sentiremo anche come e perché una ONG sulla questione degli immigrati è riuscita a consegnare alle Nazioni Unite una lista con i nomi di una ventina di grandi trafficanti di uomini e donne. Se ci sono riusciti loro, dovrebbero riuscirci anche le autorità internazionali. Poi giocheremo, cerchiamo un personaggio della settimana, tra poco dopo il traffico, il primo indizio. 800 24 00 24, cominciate a prenotare il vostro intervento in diretta. Tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Ecco. eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Allora, oggi Milano Monterosa come ieri, nuvoloso, bigio però come ieri, ma non ci lamentiamo che anche ieri in manifestazione è stato bellissimo, sono venute giù solamente due gocce, è stata una bellissima festa della liberazione. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari amici ascoltatori. Come detto, sentiremo tra poco il sindaco di Bari, De Caro, il sindaco di una grande città, e c'è il tema dei tagli ai comuni, ma anche le nuove regole per la movida, tra l'altro non solo a Bari, vedremo come viene affrontata, perché insomma adesso che arriva di nuovo la bella stagione, si cerca di trovare una strada per, come dire, tenere insieme il divertimento, la sera, le attività commerciali, la gente che si diverte, va fuori e insomma, e chi si lamenta, chi del rumore si lamenta, e giustamente vuole un po' di tranquillità e anche di sicurezza, perché poi la notte ci sono gli incidenti stradali purtroppo spesso. 800 24 00 24, se avete storie che riguardano le vostre città, chiamateci e raccontatecele, perché insomma ci fa piacere di accogliervi. D'accordo, come sempre il weekend è brutto tempo, poi invece durante la settimana c'è il sole, sì. Io sono felice perché il weekend sto a Milano per Radio 24, e invece la settimana prossima rinizio il mio book tour di Fossi in te, io insisterei, il libro che sto presentando in giro per l'Italia, e quindi domani sarò alla biblioteca di Costa Masnaga alle 21 in provincia di Lecco, e il 30 invece sarò a Verona alla libreria Feltrinelli alle 18. Doveva esserci anche Padova, ma è saltata perché è crollato un pezzo della biblioteca. Oh la miseria, vedi com'è lo stato delle istituzioni culturali nel nostro paese. Tra l'altro le biblioteche sono una delle competenze, credo, adesso vado così a braccio visto che tu l'hai detto, che dovrebbero passare dalle province, ex province, a chi prenderà il posto delle province, forse il personale che viene spostato nelle regioni, perché sai che le province stanno mano a mano chiudendo. Perdonami, sono ignorante. C'è stato un risparmio del personale eletto, che non c'è più, però le funzioni che facevano capo alle province, tra cui anche le biblioteche, ripeto, credo, ma adesso potrei sbagliarmi, sono, ho fatto un'inchiesta report qualche tempo fa, sì. Quindi diciamo, per la presentazione del mio libro che è saltata, vado a lamentarmi in provincia, o in regione. Questa è la vera domanda, rispondete, aspettiamo anche telefonate su questo, ovviamente. 800 24 00 24. Allora diamo l'indizio per giocare con noi, e anche oggi mettiamo in palio un premio offerto dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, lo sapete, stiamo collaborando con loro da un po' di tempo, c'è un weekend, adesso non trovo il riferimento preciso, fra poco ve lo dirò esattamente. Il primo indizio che vogliamo darvi quest'oggi è che il personaggio della settimana, su cui c'è una notizia che lo riguarda, ha fatto un lungo viaggio. Così, diciamo, cominciamo così. 800 24 00 24. Vai. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, l'estate e la libertà. Le l'estate addosso, bellissima e crudele. Le stelle se le guardi non vogliono cadere. L'anello è sulla spiaggia, tra un mare di lattine. La protezione zero, spalmata sopra il cuore. L'estate addosso, come un vestito rosso. La musica che soffia via da un bar. Cucurucu paloma, l'amore di una sera. Gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, l'estate e la libertà. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Allora, in attesa di collegarci anche con il sindaco di Bari, De Caro, col quale volevamo affrontare con lui il tema delle nuove regole per la movida in questa città, perché ci sono notizie adesso appunto con l'arrivo della bella stagione. Per esempio a Genova, sentite qua, i commercianti sono infuriati, stop a musica e spettacoli per strada dalle 22 alle 7 di mattina. Nei locali si potrà ascoltare la musica ma solo fino a mezzanotte, per strada invece dalle 10 di sera scatta una specie di coprifuoco, così hanno scritto i giornali. A Bari anche qua ci sono interessanti notizie, ma il sindaco per ora non ci risponde. Intanto però abbiamo con noi, e gli diamo il buongiorno, il presidente di Federalberghi di Roma, Giuseppe Roscioli. Buongiorno. A tutti. Buongiorno. Per un'altra iniziativa, anche questa una bella notizia. Dove siete? In piazza? Oggi siamo in Piazza della Suburra, diciamo dietro via Cavour, all'angolo dove c'è la fermata della metropolitana. A dare una mano, a rimboccarvi le maniche, perché vi siete dati appuntamento, voi ed altri, diciamo lei ed altri albergatori, insomma, operatori della città, per fare che cosa? Ce lo spieghi lei? Ma diciamo che in una situazione così degradata come è la città di Roma, cerchiamo di dare una mano, nel senso che ci riuniamo una volta al mese e scegliamo una piazza, una location, diciamo, anche turisticamente interessata, dove c'è un degrado un pochino più elevato della media, e cominciamo a pulire, d'accordo con il comune, con la circoscrizione, con tutti quanti, in maniera che poi si possano usare anche i materiali giusti per non fare danni invece di fare delle cose fatte bene, certo. Ma perché pulite anche le fontane, quindi, cioè, pulite anche i monumenti? Guardi, no, i monumenti no, però tutti i muri, anche dove ci sono, non so, per esempio l'entrata della metropolitana, le scale, sì, e tutti i contenitori. Ma togliete anche le scritte che ci sono su tutto quanto, sì, poi soprattutto tutte queste etichette abusive che ci sono, migliaia di etichette abusive che sono, anche perché a Roma dove tocchi un bene storico, quindi anche l'ingresso della metropolitana ormai. Guardi, la metropolitana è di Augusto, giusto? Guardi, sicuramente anche per il mestiere che facciamo, e quindi quando un cliente torna in albergo sentiamo i commenti, magari dice: ah, Roma, città meravigliosa, ma quanto è sporca. Tutte queste cose ti mortificano, ma anche come cittadino, perché poi io utilizzo la città anche come cittadino, è veramente è una cosa che è deprimente, per cui cerchiamo di fare un qualche cosa con delle iniziative. Magari non risolviamo il problema, però comunque cerchiamo di dare un esempio a tutti quanti, perché io credo che molto sia un fatto culturale, sia nostro che poi di chi vive questa città, perché io sono convinto che anche molti turisti che nel loro paese non fanno certe cose vengono qui e poi le fanno, perché chiaramente vedono un degrado generalizzato. Senta, ma sia sincero però, quanti siete al momento? Perché insomma, tirar giù dal letto di domenica mattina un po' di gente per andare a pulire le strade di Roma non è facile. Non deve essere un'impresa, diciamo. Guardi, abbiamo tutti delle pettorine blu e qui vedo una distesa di pettorine blu. Ora, se volete, vi mando un video. Se ci manda una foto, la postiamo. Moltissimi albergatori, ma anche gente comune. Io ho visto gente che scendeva dai palazzi, che chiaramente non sapeva che cosa stiamo facendo e si sta unendo a noi. Quindi direi che è quasi contagioso. Si sta creando un'onda spontanea. Senta, ma perché proprio Piazza della Suburra a Roma? Ce lo spieghi a noi che non siamo di Roma, diciamo, ai non romani. Non è una scelta, diciamo, noi abbiamo anche fatto tutta Piazza Argentina, abbiamo fatto anche altre cose. Beh, sono delle zone un po' degradate, magari un pochino più nascoste, ma dove c'è un grande passaggio. Qua, per esempio, c'è la fermata della metropolitana che non si vede molto, ma ora vi mando una foto. Sì, ce la mandi, sì, assolutamente. Come no, e vedrete appunto come è degradato con le cotelette, tutti. Ma poi c'è una sporcizia generalizzata. Adesso è chiaro che non è che il cittadino si deve sostituire all'autorità pubblica, questo no, però sicuramente ci vuole una maggiore. Senta, mi faccia dire una cosa che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando, ma che riguarda il nostro gioco con gli ascoltatori all'800 24 00 24, perché Carlo, ho recuperato la lista con il premio messo in palio di oggi, è giusto dirlo correttamente. Avrei dovuto farlo io che sono lo stagista dei due, effettivamente. Ecco, bravo, vedi, ti sei dato l'incarico. Chiedo scusa. Un weekend presso l'hotel San Marco a Parma, comune virtuoso, abbiamo già specificato perché e per come ci stanno dando una mano i comuni virtuosi nei nostri giochi. Il personaggio che cerchiamo, ripeto l'indizio, è un personaggio che ha fatto un lungo viaggio. E così, cari ascoltatori, potete iniziare a chiamarci. Senta, Roscioli, perché i commercianti già fanno delle cose, per esempio, non so, in occasione delle feste, le lucine spesso sono le pagano i commercianti, quando c'è da risistemare l'arredo, insomma, una mano alla città l'ho data. Allora, non parlo di Roma, ma in generale. A Londra, però, è da un po' di tempo va di moda una realtà ancora più forte, si chiamano i BIDs, sono i Business Improvement District, dove praticamente i commercianti proprio si prendono a cuore una zona della città e la rilanciano completamente, fanno proprio degli investimenti, perché insomma la città e il quartiere sono il vostro mezzo di lavoro. Certo, è questa certo. Un po' la strada che si segue anche a Roma? Ma io penso che poi noi saremmo obbligati a fare in questo modo, nel senso che negli anni diciamo che doveva essere il pubblico a dare una mano da questo punto di vista. Oramai questi tempi sono finiti, quindi bisogna essere un po' più reali e pragmatici, quindi io credo che questa sia l'unica strada percorribile che possa portare risultati, quindi l'unione fra aziende, interessi, come dire, anche gli interessi collettivi generali, voglio dire, di un territorio, si devono mettere insieme e fare operazioni di questo genere. Io ne sono straconvinto che questo è il futuro. No, mi rendo conto che detto a una persona che in questo momento ha la scopa in mano, già sta pulendo le strade di Roma, dovete fare ancora di più. Però no, io le ho solo portato un esempio di questa tendenza che sta prendendo piede un po' appunto in Inghilterra, dove appunto i commercianti, a fronte forse anche sì di una a volte incapacità economica dei comuni di fare grossi investimenti, insomma si stanno un po' rimboccando le maniche. Senta, un'altra cosa riguarda invece il Giubileo, Confcommercio, sì, che è un'associazione diciamo collaterale rispetto a voi, insomma, no? È un'altra però con cui credo collaboriate, ha lanciato l'iniziativa per tenere i prezzi sotto controllo, no? Un bollino contro le truffe e i rincari selvaggi, perché si sa, arrivano più turisti e c'è un po' questa tentazione da parte di alcuni malintenzionati. È una cosa che potreste sposare anche voi, avete già fatto? Ma guardi, noi questo problema non ce l'abbiamo, le spiego, perché chiaramente già nel 2000 questa cosa, quando si è volato sul video, si può. Noi abbiamo una pubblicità dei prezzi che viene fatta comunque l'anno precedente rispetto all'anno in corso, dove noi dichiariamo tutti i prezzi massimi che sono esposti all'interno delle camere, all'interno dell'albergo, che non possono essere cambiati. Per cui quando è stato fatto il Giubileo i prezzi sono già esposti, e questa cosa e ci tengo a specificarlo, nelle aziende regolari questo fatto non può succedere, perché i prezzi sono pubblici, quindi non possono essere aumentati. Dov'è che succede questo? Nel mondo del sommerso. A Roma abbiamo una ricettività, diciamo, alternativa, chiamiamola così, completamente sommersa, senza nessuna regola, dove invece fanno prezzi a seconda se sta al sole, come si alza o se piove. Ma qual è il prezzo massimo di una bottiglietta d'acqua da mezzo litro per Roma? Guardi, può arrivare anche a 10 euro. Perché nel ma io mi chiedo il prezzo massimo vostro, quello che voi fissate, il tetto. Ma come albergo? Sì. No, ma come albergo, da noi i prezzi all'interno del sistema sono fissi, non è che variano, ma può essere 2 euro, 2 euro e mezzo, ma non può essere di più. 3 euro a seconda se è una è un indicatore molto preciso d'acqua. Perché appunto la bottiglietta d'acqua da mezzo litro, se costa 2 euro e mezzo, vuol dire che al litro costa 5 euro, vuol dire le vecchie 10.000 lire al litro per un litro d'acqua è abbastanza tanto. Questo sì, lo so, però questo pubblici, problema, sì. No, ma il problema vero è laddove è strada questa cosa, dove, cioè, io le faccio un esempio: ci sono alcune zone dove non ci sono dei bar, zone di pregio architettonico, parlo dei Fori Romani piuttosto che vicino al Colosseo eccetera, per cui laddove magari non c'è una struttura ufficiale che vende, ci sono questi venditori più o meno regolari che però fanno i prezzi che gli parlano a loro, sì, sì, è vero, a seconda della costa. Quindi a volte sono più bassi però quei prezzi, le faccio l'esempio della manifestazione a Milano ieri, ovviamente quelli che vendevano le birre o l'acqua o le Coca-Cola in giro con il secchio vendevano a molto meno che i bar, dipende dalla situazione. Certo, infatti io infatti le stavo dicendo, beh, poi quelli non hanno, come, pagano come si tasse, il sole, sì. Ha capito, se piove o se fa vento, perché purtroppo è fuori controllo quella situazione, certo. Essendo poi nella maggior parte dei casi abusivi, è chiaro che fanno come si fare. Comunque ci mandi la foto, onore a Federalberghi che sta pulendo, insomma alcuni operatori, ecco, degli alberghi romani che stanno ripulendo Piazza della Suburra. Amici romani, se siete in transito da quelle parti e così volete fare, volete dare una mano, potete aggregarvi oppure andare a scattare una foto, ce la mandate. Ma siete preoccupati per il giubileo o vi sentite pronti? Assolutamente no, non siamo preoccupati, siamo abituati. L'altro anno c'è stata la pianificazione dei due papi nel 2000, l'altro giubileo. Roma è piena di grandi eventi, quindi questo... Cioè, avete due papi, ormai siete pronti ad avere due papi. Cosa vuoi che gli faccia un giubileo? Esatto, avere due giubilei così vicini come questo, in questo periodo. Molto bene. Grazie ancora al presidente Giuseppe Roscioli di Federalberghi. Grazie. A chi in questo momento, diciamo, sta passando la sua domenica mattina a ripulire un po' le strade. Avete sentito anche con gli strumenti offerti dall'azienda per la pulizia della città, per ripulire anche i muri, dalle scritte. Non sempre le scritte sono da togliere, però. Davanti casa mia per esempio ci sono dei murales, ma sono stati fatti apposta, sono stati fatti fare dal cinema, perché il retro dell'uscita di un cinema, sono dei disegni bellissimi. Infatti ho notato che i writers non li toccano, certo, perché non c'è rispetto fra di loro, sì. C'è rispetto. Devo rispondere a un SMS, sì, che è arrivato, che mi chiede quando sarò a Catania a presentare il libro e se ci andrò. Andrò anche a Catania, vado il 26 maggio a Palermo, il 27 a Messina e il 28 maggio a Catania. È informazione personale, ammetto, Alessio, però me l'hanno chiesto in un SMS per tutti. Va bene, la prossima volta fate al telefono, 800 24 00 24. Sto scherzando. Sei il mio sponsor, sto Ale. Scherzando. Allora, tra poco iniziamo a sentire le risposte degli ascoltatori al gioco della settimana. Cerchiamo un personaggio della settimana che ha fatto un lungo viaggio. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo buongiorno cari ascoltatori. Abbiamo Francesca che ci chiama da Trapani. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva intervenire Francesca? Voleva giocare? Sì, volevo giocare e dire il personaggio di sì. Erno. Chi potrebbe essere? Certo, siamo tutti orecchi. Renzi. Come? Ha detto Renzi? Perché? Sì, ma Renzi. Francesca, la sentiamo malissimo. Ha detto Renzi perché? Vuole specificare? Mi sembra di ricordare che questa settimana è andato da Obama. Sì. Sì. Giusto, giusto. Quindi ha fatto un lungo viaggio. Ha fatto un lungo viaggio e la notizia è questa. Però il personaggio non era questo, quello che abbiamo scelto. Era un po' un trappolone per portarla su Renzi. Quindi la ringraziamo per esserci cascata. Buona domenica. È un po' cattivello, Carlo. Grazie, Francesca. Abbiamo anche Rino da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Saluto il maestro Maurizi e lo stegista Gabardin più I. Buongiorno. Gabardin più I? Certo. Ormai così. È così, perché mi siete simpatici. Mi è venuta così. Ha una voce bellissima, da editto. Beh, insomma, diciamo che abbiamo una certa esperienza anche teatrale. Sentiva il diaframma, infatti. Perché si sente? Ha fatto cantante, l'attore? Poi io avrei voluto fare il pianista, insomma, il pianista col piano bar. Sì. Certo. Cantare, più cantare, suonare il piano che suonare il piano e cantare. Ma invece non l'hai fatto altro, Rino. Cosa ho hai fatto? Ho fatto altro nella vita. Quindi, che cosa? Per esempio, consigliere provinciale fino al famoso ultimo dì dello scorso anno, quando ci hanno chiusi quasi tutte le province. Non lo dica così mestamente, perché no, lo dico mestamente perché io ho creduto al fatto, ero uno di quelli che si è, come dire, mosso molto anche politicamente nel mio piccolo, sì, per favorire il cambiamento delle province, ovvero la il cambiamento amministrativo, sì. non politico, non amministrativo. Senta, ma ho sbagliato qualcosa, perché ho detto delle province sulle biblioteche, mi sa no, che... No, perfetto. Allora, però facciamo un po' di chiarezza. Allora, sì. Le province nelle loro responsabilità, quasi tutte avevano anche, dal punto di vista della delega delle regioni o comunque delle responsabilità dirette, anche il governo delle biblioteche. Ecco, quindi l'avevo detto giusto. Però sì. Attenzione, delle biblioteche del territorio afferenti come, diciamo, responsabilità originale ai comuni. Cioè la provincia di Bologna aveva le sue biblioteche provinciali, poi nel primo anno 60-61 diede vita ad una cosa bellissima che si chiamò Consorzio di Pubblica Lettura. In quel momento nacque una sorta di, diciamo, catena di solidarietà e anche di efficienza, sì. Perché la provincia mise insieme tutte le biblioteche dei comuni. Sono le 9:38 e abbiamo ancora 1:20 prima di chiudere il programma. Rino, per arrivare a dire che cosa, però? Per arrivare a dire che cosa? Che le province hanno mantenuto buona parte delle responsabilità delle, sì, biblioteche, però attenzione. Ci sono le biblioteche grandi dei comuni che sono, sì, autonome, ci sono altre iniziative parapubbliche, ma soprattutto la cosa più importante è la responsabilità di coordinamento che hanno le regioni. Ok, quindi, cari infatti, miei, sono sempre quello il problema. Vedi Carlo, dove siamo arrivati per parlare del giro di presentazione del tuo libro. Cioè, no, è al contrario, siamo... però, perché in realtà io sono tristissimo, perché la presentazione del mio libro non si farà a Padova, ma si farà a Verona il 30, ne sono molto contento, ma mi è saltata quella a Padova. Perché non in realtà l'abbiamo buttata su la burocrazia di come funzionano le biblioteche. Va bene, 800 24 00 24, tra poco con altri ascoltatori. Adesso diamo il buongiorno al sindaco di Bari, De Caro. De Caro? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, avevamo preparato anche questo tappeto musicale, poi c'è stato un attimo, non ci siamo sentiti, aveva il silenzioso. Ma ha messo il silenzioso per non dar fastidio ai vicini, visto di quello di cui parliamo. Per la movida. Cioè, prima delle 10 è vietato accendere la suoneria a Bari? Devo dirvi la verità, mi è partito il silenzioso al telefono, non so nemmeno perché, non so come è potuto succedere. Forse ieri sera era al cinema. Senta, sindaco, allora, il primo argomento in realtà che io volevo trattare con lei è questo. In settimana, se abbiamo capito bene, il governo e i comuni hanno trovato, insomma, un accordo per questi famosi tagli, per questa spending review che, insomma, inizialmente i comuni eravate molto molto preoccupati, perché abbiamo tagliato già tanto, Cottarelli è sparito, la spending review dei ministeri non se ne sa molto e continuiamo a tagliare noi sindaci. Poi sembra che avete trovato un accordo, è così? Il taglio che era previsto per quest'anno ci è rimasto per intero. La mia città deve tagliare 8 milioni di euro più spiccioli, più 200.000 euro, però io sono riuscito a farlo perché sono riuscito ad efficientare un po' la macchina in questi 8 mesi. Da quando faccio il sindaco, la macchina amministrativa, ho risparmiato sulle spese telefoniche, sembrerà strano, ma c'erano tanti costi sull'affitto dei fotocopiatori, che per un comune comunque di 320.000 abitanti. Com'è sta cosa dell'affitto dei fotocopiatori? Cioè, abbiamo tanti uffici con, diciamo, adesso si prendono in fitto i fotocopiatori, non conviene più acquistarli. Certo. E quindi, però, siccome sono tanti e c'era un costo elevato, abbiamo razionalizzato questo contratto. Abbiamo razionalizzato, rivisto il contratto con la ditta fornitrice, abbiamo risparmiato dei soldi, ho tagliato un po' sui fitti passivi, nel senso che molte attività comunali le ho spostate in edifici pubblici che abbiamo risistemato. Per esempio, ci fa qualche esempio? Beh, per esempio, l'accorpamento delle ex circoscrizioni nei municipi mi ha permesso di prendere il personale che prima faceva parte delle circoscrizioni che non ci sono più ed erano in edifici privati, li ho portati in edifici pubblici, ho risparmiato altri 2.400.000 euro. Insomma, complimenti. Senza toccare i servizi abbiamo risparmiato questi 8 milioni di euro e contemporaneamente quindi posso fare il taglio, abbassare un po' la TASI, che l'anno scorso è stata una bella botta per i cittadini baresi. Mm. Quindi possiamo... si tenga libero, perché forse abbiamo bisogno di lei anche al governo centrale. Senta, ma possiamo dire che allora questa spinta, diciamo, che viene dai governi ormai quasi tutti, di tutti i colori, negli ultimi anni a far risparmiare, a tagliare le spese un po' dei comuni, cioè a diminuire i trasferimenti, anzi a chiedere qualche cosa, sia tutto sommato vi può spingere alcuni forse a tagliare, e questo sarebbe un peccato, i servizi, altri come lei a ingegnarsi e a trovare delle soluzioni. Bisogna ingegnarsi, i comuni comunque, gli enti locali hanno avuto tagli negli ultimi anni, ogni anno sempre tagli maggiori. Dovremmo aver finito l'accordo che abbiamo trovato questi giorni, è un accordo sui tagli alle città metropolitane, nel senso che, fermo restando il taglio di 256 milioni di euro che è previsto per quest'anno, c'erano alcune città che avevano un taglio eccessivo, ecco, che sono Firenze, Napoli e Roma. Fondamentalmente è vero che quel taglio era calcolato sui costi standard, è vero che era stato utilizzato un criterio, diciamo, ineccepibile, nel senso che venivano individuati i costi storici, ma anche i costi a seconda della popolazione, della presenza, della superficie delle strade, però è anche vero che quelle tre città quel taglio non riuscivano a sopportarlo. Quindi da un lato abbiamo usato un criterio anche di solidarietà, nel senso che un po' tutti le altre città metropolitane hanno aumentato l'importo del taglio per aiutare queste città. Io per esempio taglierò, sono passato da 12 milioni e 4 a 13 milioni e 4, un milione in più, lo stesso ha fatto Genova, lo stesso ha fatto Milano. Come tagli? Come tagli? Sì, aumentiamo un po' il taglio noi come città metropolitana e le ex province a favore di queste tre città che avevano un taglio corretto, però era insopportabile, nel senso che avrebbero fatto saltare il bilancio. Certo. Contemporaneamente però il governo si è impegnato a risolverci alcuni problemi. Abbiamo per esempio da anni degli immobili che sono di proprietà delle città metropolitane, prima delle province, che vengono usate, non so, dalla questura, dalle prefetture, per i quali non abbiamo mai ricevuto il fitto. E quindi ci restituiranno parte di questi soldi. Abbiamo è un grosso fatto problema quello dei crediti che hanno molte amministrazioni nei confronti, sì, per esempio, di questi affitti, ed è giusto naturalmente, insomma, recuperare quello che è recuperabile. Senta, però io volevo affrontare con lei, noi volevamo parlare con lei anche del tema della movida estiva, del piano del Comune di Bari per la movida estiva. Può sembrare un tema prematuro, perché siamo ancora aprile? No, molto leggero. In realtà io credo che, insomma, una città che si diverte, una città che è accogliente e che sa coniugare le attività commerciali che girano attorno alla movida con il rispetto degli altri, della quiete e della sicurezza, è una città nella quale si può vivere e costruire e intraprendere anche in maniera positiva. A me ha colpito il fatto che avete deciso di investire nell'apertura anche la notte dei parcheggi dai quali si poi possono prendere i mezzi pubblici per andare in città. Tra l'altro, una città come Bari che si snoda lungo mare, questa cosa è particolarmente utile, così almeno mi hanno detto alcuni che conoscono la città. Ci racconta come affrontate questa questione? Beh, i parcheggi di scambio, il cosiddetto park and ride, che nasce nel 70 ad Oxford, a me ha dato molta fortuna, mi ha portato molta fortuna quando facevo l'assessore al traffico, nel senso che oggi sono riuscito a decongestionare la città, la parte centrale della città, dal traffico cittadino, grazie a questi parcheggi di scambio. Costa un euro al giorno, si parcheggia l'automobile in un parcheggio di scambio periferico o semiperiferico e c'è un autobus che ti accompagna nel centro cittadino, tutto al costo di un euro, puoi entrare, salire, scendere dall'autobus tutte le volte che vuoi, entrare e uscire con l'automobile dal parcheggio tutte le volte che vuoi nell'arco della giornata. Il prezzo è incredibilmente ottimo, direi. Beh, perché abbiamo lavorato sulla tariffa, se vuoi chiedere a qualcuno, certo, di lasciare la macchina fuori e prendere l'autobus, almeno devi avere una tariffa bassa. Ci deve essere un incentivo. Nel centro cittadino costa 2 euro all'ora, quindi uno fa due conti e probabilmente è più, se il servizio è efficiente, certo, come lo è almeno quello del park and ride, non di tutto il trasporto pubblico purtroppo. Abbiamo deciso di tenerlo aperto anche la notte, perché vogliamo decongestionare la zona della movida, perché arrivano tutti con l'auto, non c'è il posto, perché ovviamente il posto auto è già occupato dai residenti, c'è gente che lascia la macchina in doppia fila, sugli scivoli. Quindi da un lato vogliamo fare un'operazione strutturale, cioè spostare, distribuire la movida, perché oggi è tutta concentrata nel centro storico, che è pieno di ristoranti e di pub, e invece nel cosiddetto quartiere murattiano, un quartiere ottocentesco, non ci sono locali, ci sono solo attività finanziarie e negozi che ovviamente sono aperti soltanto la mattina. Vogliamo riequilibrare strutturalmente, vogliamo spostare un po' di ristoranti e pub e bar nella zona ottocentesca e magari nel centro storico che vive solo di notte portare qualche negozio, però questo è l'intervento strutturale che abbiamo programmato. Nell'immediato lasciamo aperti i parcheggi di scambio anche di notte, costa sempre lo stesso 1 euro al giorno, uno può parcheggiare la mattina e tenere anche la notte lì, siamo fino alle 3 di notte e accompagniamo chi vuole partecipare alla Movida Barese, li accompagniamo con un autobus, passa ogni 15 minuti. Uno può bere anche un bicchiere in più quella sera, esatto, e poi sì, prendersi l'autobus. Ed è fino alle tre di notte questo servizio? Sì, lo facciamo fino alle 3. E la mattina che ora riparte? La mattina riparte alle 6:15 come tutte le mattine. Ah, perfetto. No, perché mi chiedevo proprio per quelli che non riuscivano alle 3, che magari uscivano da una discoteca alle 4:15, possono aspettare le 6 per mangiarsi il cornetto. Non ci sono discoteche, ci sono solo locali, ah, perfetto, si perfetto, può ascoltare musica, sì, perfetto, ma discoteche non ce ne sono. Senta, ma in questo equilibrio che tutte le città cercano, le città lungo la costa dove c'è più turismo, ma insomma in generale tra appunto il rispetto anche della quiete degli abitanti spesso del centro e invece il fatto che la movida per le attività commerciali, ma direi anche proprio per la città, è un elemento vitale imprescindibile. A Bari riuscite a trovare un equilibrio? Ci sono molte lamentele da parte dei cittadini o ve la cavate? Molte lamentele no, c'è un equilibrio, ma è assolutamente in equilibrio instabile. Io faccio l'ingegnere nella vita, posso fare l'esempio, facevo l'ingegnere, posso fare l'esempio dalla pallina sul cucuzzolo della montagna, che se la fossi un pochino se scivola giù lungo. È un attimo che finisce male. L'esempio è bellissimo. Quindi è una cosa su cui bisogna sempre lavorare, bisogna sempre limare. Per fare un'ordinanza, per dire che dopo le 2 la notte comunque la musica all'interno va abbassata, comunque abbiamo fatto ordinanze nel passato che obbligano i gestori dei locali dove c'è la musica a insonorizzare. Bravo, questo mi sembra fondamentale. Siete più permissivi di Genova, dove invece la musica si può ascoltare all'interno fino a mezzanotte, per strada addirittura alle 10 di sera bisogna interromperla. Facciamo una pausa per il traffico. Sindaco di Bari De Caro, resti con noi, se ancora pochissimi minuti, perché poi vogliamo chiederle anche come è andata a finire con la pedonalizzazione del lungomare. Lei qui da noi sarà impegnata a dire almeno una volta al mese continuiamo a fare una domenica al mese. Adesso ci racconta come è andata a finire. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, cari amici all'ascolto, se avete delle storie da raccontarci che riguardano la movida nella vostra città, se vi volete lamentare per quello che succede nella vostra strada, oppure se invece volete raccontarci il contrario, esatto, di come e perché movida e quiete e sicurezza riescano a convivere, chiamateci con il sindaco De Caro. Sulla questione della pedonalizzazione, si ricorda che ci eravamo sentiti un po' di tempo fa? Certo che mi ricordo. È finita che anziché chiudere una volta al mese stiamo chiudendo quasi una volta alla settimana, perché ci sono tutta una serie di manifestazioni che ovviamente per avere visibilità si svolgono sul lungomare, gli organizzatori li organizzano sul lungomare, ce le chiedono sul lungomare e quindi stiamo chiudendo. Oggi, ma direi per esempio, che è una buona notizia però, mi sembra. È una buona notizia, sì, però qualche volta i residenti si arrabbiano così, ma va bene così, certo, perché è bello poter passeggiare. Oggi è chiuso, tutto il lungomare è chiuso perché c'è la Mira Bari, è una corsa podistica che rievoca l'impresa di 62 marinai che andarono a Mira per, diciamo, trafugare. Sì, abbiamo rubato, diciamo, le ossa del nostro santo patrono, che è San Nicola, e le portarono a Bari, serviva un elemento identitario per la nostra città e 62 marinai andarono a Mira e presero le spoglie del vescovo di Mira, che poi è diventato San Nicola e oggi è il nostro santo patrono. Ma quindi oggi è bellissimo, è questa corsa podistica, è la versione italiana della maratona, direi. Sì. Senta, ma perché i concittadini, suoi concittadini le scrivono, si arrabbiano per la chiusura della lungomare, perché chiaramente vedendo la chiusura una volta alla settimana. Ma loro non possono proprio entrare, come No, è proprio pedonale. Oggi c'è la corsa, la prossima domenica c'è una c'è la rievocazione invece di un vecchio Gran Premio di Bari con le macchine d'epoca attorno al centro storico. Abbiamo deciso di chiudere anche tutto il lungomare in modo che la gente può arrivare nel centro storico a piedi. 6, 7, 8 sì. C'è proprio la festa patronale di San Nicola e quindi sarà chiuso tutto il lungomare per tre giorni. Ma se io sono abito lì e ho un'emergenza e dovrei prendere l'auto, come posso fare? C'è una soluzione? Ci sono le strade limitrofe, ci sono le strade parallele, perpendicolari, certo. E sono molte queste lamentele, oppure è più diciamo la gioia dei concittadini di andare in bicicletta, di godersi il lungomare meraviglioso, perché diciamo la verità, è chiaro che senza macchine ci si guadagna qualche cosa, ci si guadagna nell'aria che si respira, si guadagna nello spazio che si recupera e nella socialità si crea anche un... Beh, settimana prossima c'è il Gran Premio però, ho capito bene? C'è un Gran Premio? Sì, attorno al centro storico c'è il Gran Premio delle macchine d'epoca, è una parata di automobili d'epoca attorno al centro storico, però chiudiamo il lungomare in modo che a piedi, in bici, si può raggiungere il centro storico, si può raggiungere la viabilità del centro storico dove ci sarà il Gran Premio. Perfetto, infatti era una battuta, perché uno dice togliamo le macchine dei privati e ci mettiamo il Gran mettiamo Premio. Quelle del Gran Premio, no, ma la porzione del Gran Premio è piccolissima, il lungomare è molto più lungo e ci servirà per camminare a piedi. Va bene così, non sono paragonabili. Le proteste sono poche, la gioia delle persone sul lungomare a piedi o in bici non ha paragone. È bravissimo lei, sindaco, perché mi sembra che è anche disposto a prendersi la responsabilità e dice vabbè, un po' di lamentela arriveranno al sindaco, ma ci stanno, è molto meglio poter camminare. Mi hanno insegnato che bisogna fare delle scelte, convincere il 51% delle persone e poi coccolarsi l'altro 49%. Giustissimo. Senta, giustissimo. Un'ultima cosa le voglio chiedere a proposito degli argomenti che abbiamo affrontato, perché so già che una parte degli ascoltatori ascoltando immaginerà, penserà, criticherà dicendo beh, ma insomma affrontate argomenti come questi, la pedonalizzazione, andare a piedi in bici, la movida, tutte cose che insomma cose un po' leggerine, no? Non è questo di cui si dovrebbe occupare il sindaco. Perché invece mi sembra di capire che per lei questi temi sono io credo che siano importanti, perché credo che impattino sulla vita delle persone più di tanti altri dibattiti o questioni di ordine generale. Per lei queste questioni invece sono centrali? Se lo sono, perché? Beh, sicuramente abbiamo un problema legato alle difficoltà economiche, alle frammentazioni sociali, anche in una città come Bari, nonostante una città importante, comunque una città del sud che soffre, però ci impegniamo sui servizi sociali, con i cantieri di cittadinanza, con gli alloggi popolari, con l'housing sociale, poi ovviamente c'è la necessità di far vivere bene le persone che stanno nella mia città e quindi credo che sottrarre spazi agli automobili, mettere a disposizione dei pedoni, dare la possibilità magari con l'area pedonale di poter aprire delle attività economiche che non si sarebbero mai aperte, un bar, un ristorante che al periodo estivo, primaverile, può mettere fuori i tavolini, le pedonalizzazioni del centro storico mi sono servite per diciamo rendere fruibile il centro storico anche ai turisti, ai croceristi, arrivano tanti croceristi che prima facevano lo slalom tra le automobili, oggi possono passeggiare e chiaramente su quelle strade si sono aperte attività legate allo shopping, ecco, credo che chiaro. La pedonalizzazione da un lato fa vivere bene le persone perché crea socialità, perché allontana lo smog, perché diciamo permette di rispettare l'ambiente, dall'altro lato però è anche una leva per lo sviluppo socio-economico di una città. Giustissimo. Bellissimo. Mi sembra un bellissimo quadro della città. Spero di venire a Bari a presentare il mio libro a questo punto, l'aspettiamo, perché mi sembra stupendo. L'aspettiamo. Grazie De Caro, buona giornata, buona grazie domenica. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, quello che abbiamo detto per Bari vale anche per altre città, abbiamo voluto parlare con lui perché c'era questa notizia e perché Bari è una grossa città, però insomma si può fare mutatis mutandis, lo stesso discorso anche per altre città, amministrate anche da altri colori politici, perché non pensiate che siamo qui a fare cose con De Caro perché è Renzi al governo, non è questo il punto. Claudia da Milano in 50 secondi per chiudere prima del GR, buongiorno. Claudia? No, è caduta. Allora Mario da Bergamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Vai Mario. Su cosa volevi intervenire? Mia figlia crede di aver indovinato il personaggio, però sono, poiché è piccola non può intervenire, sono il suo portavoce. Perfetto, fantastico. Molto bello, crede, l'accogliamo. Fedez. Però ci deve dire anche per quale motivo e quale notizia è legata a Fedez in questa settimana. Perché ha fatto un tour sì? E è andato in giro per il mondo facendolo. Il suo tour populista, è vero, è verissimo, sei bravissima. Ma che bella questa accoppiata padre figlia. Noi dobbiamo fra l'altro chiudere il GR, mi piacerebbe risentirle dopo. Intanto però anticipiamo che la risposta non è quella, quella giusta. Sicuramente per il momento è la telefonata più bella della mattina. Grazie. Grazie mille. GR, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, questa che avete ascoltato è Follow the Sun di Javier Radrud. E ringrazio anche l'ascoltatrice che a buon conto propongono sempre cantanti con un sacco di R e per me sono molto difficili da e dire. E nomi esotici tipo esatto. Javier Rudd. Javier Rudd, canzone suggerita dalla nostra ascoltatrice Stella Ciraci, che ha voglia di sole e di estate per smettere di correre e tribolare ogni giorno. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si può fare in musica, quindi ce li potete segnalare, oppure se siete dei compositori, dei musicisti e le scrivete apposta delle canzoni ce le potete mandare, e questo lo potete fare sui nostri account social, ovvero su Facebook Si può fare trattino Radio 24, oppure su Twitter @ Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @ Carlo Gabardini e il mio @ Ale Maurizi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24. Allora, siamo partiti questa mattina abbiamo sentito il sindaco di Bari, De Caro, abbiamo sentito fino a poco fa, abbiamo parlato del nuovo piano per la Movida, anche della pedonalizzazione del lungomare, un tema che per esempio a Napoli ha fatto molto molto discutere, ci ha spiegato come e perché questi argomenti sono centrali per una città come Bari. Stiamo cercando un personaggio della settimana. Abbiamo dato il primo indizio che ha fatto un lungo viaggio e forse dobbiamo darne un secondo. Tra poco diamo un secondo, prima sentiamo qualche altro intervento, poi lo diamo. E poi anticipo che tra poco sentiremo i responsabili di una ONG, Everyone Group, che si occupa della difesa dei diritti umani dei migranti, ma che soprattutto è riuscita a consegnare alle Nazioni Unite una lista con i nomi di almeno una ventina di grandi trafficanti di migranti, di uomini e donne. E quindi se ci sono riusciti loro, dovrebbero riuscirci anche le autorità internazionali a scovare i grandi trafficanti, che sappiamo non sono gli scafisti, ma sono proprio quei boss che gestiscono grosse quantità di denaro, grosse quantità di persone a livello internazionale. 800 24 00 24, abbiamo al telefono Maria che ci chiama dalla provincia di Pesaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Prego. Volevo dare come risposta a Samantha Cristoforetti, ma non so, forse è un indizio ancora troppo impreciso. Dunque, Samantha Cristoforetti, che sicuramente ha fatto un lungo viaggio, perché sta si trova facendo. E che ha annunciato forse anche che la sua missione sta per finire, ho capito bene, sta per rientrare. Sì, ecco, sì. Sta per concludere. Sì. E questa è la sua risposta. Sì. Maria, grazie, ma era tutto giusto, tutto giusto, ma il personaggio che abbiamo scelto, diciamo, questa settimana non era lei. Questo era proprio il trappolone, se vogliamo. Abbiamo pensato molto anche a questa possibile risposta da parte degli ascoltatori. Anche perché la Cristoforetti è entrata in altissima classifica, dopo Oscar Farinetti è il personaggio più nominato per il nostro personaggio della settimana tutte le domeniche. Vincenzo da Milano, buongiorno. Vincenzo, buongiorno, ci sente? Sì, mi sente? Eccoci qua, sì, prego, tocca a lei. Volevo dire, rispondere per la domanda. Il personaggio, sì, della settimana. Chi è? Sono la figlia di Whitney Houston, che si è ripresa dal coma. Sì. Lungo viaggio. Sì, lungo viaggio, sì, giusto. Sì, e tra l'altro è anche una bella notizia. Non era lei. Non però. Era lei. Ma dove si trova in questo momento? Che sentiamo un rimbombo. Aeroporto di Malpensa. Ah, perfetto. Così eravamo curiosi, semplicemente che ci volevamo fare i fatti suoi. Le chiediamo scusa. Figuri. Il personaggio non era quello, ma grazie mille di aver chiamato. Grazie. Buon imbarco. Grazie. E in effetti sì, questa è sicuramente una buona notizia della settimana. Poteva essere anche un bellissimo personaggio da dire. Non era lei. Vogliamo aggiungerlo a questo punto un altro indizio per gli ascoltatori. Aiutiamoli a vincere questo weekend all'Hotel San Marco di Parma. Aggiungiamo che il personaggio che cerchiamo è un personaggio femminile. Quindi le due risposte che ci sono appena state date erano anche perfettamente in linea, ovvero la Cristoforetti e la figlia di Whitney Houston. Però non è lei, è un personaggio femminile, un altro che ha fatto un lungo viaggio. Se l'indizio, diciamo, a questo punto non fosse fosse già stato sfruttato, perché hanno già detto molti nomi di donne, non lo so, vorrei dire che daremo un altro indizio. Tra poco vuol dire tra che pochissimo saremo ancora più buoni. Saremo ancora più buoni. Sentiamo chi sentiamo. Stefano da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Stefano? Dunque, io volevo intervenire sulla movida nei centri storici. Sì, io sì. Abito nel centro del centro storico di Pisa e volevo dire che c'è un ospite che non viene mai, quasi mai invitato, ed è la signora Bona Educazione. La prima volta che io vidi tanti tavolini fuori fu all'Indau sul lago di Costanza, un viale pieno di tavoli con le candele accese, pieni di gente che stava lì, e si udiva un leggero brusio. Qui in via Santa Maria, perché abito lì, se c'è uno, che due che mangiano la pizza, li sentono da vicevano. E i gestori si guardano bene da calmarli, perché sì, quanto più caciara c'è e più la gente viene, più la gente arriva. Guardi, le do una notizia. Sì. Tra le notizie della settimana, però non riguarda Pisa, purtroppo, mi dispiace. Può chiedere all'amministrazione di fare riferimento a questa cosa qua, a Genova. Tanto che noi chiediamo un pochino di controllo la perché sera, queste questioni poi riguardano direttamente i cittadini interessati. Uno di voi due sa bene in che stato è conciata la piazza. Pisa è la mia città, certo. La piazza dei Cavalieri e la scalinata e i gradini davanti alla chiesa. Diciamo che c'è molto transito e qualche volta ciò può essere anche visto come una forma di degrado. Va anche ricordato che comunque Pisa, oltre ad essere un'enorme città turistica, è anche piena di studenti, e questo sono anche quelli che portano i soldi a Pisa. Sì, però non è obbligatorio fare la pipì sul sagrato della chiesa, vomitarci. No, questo è vietato. Le bottiglie, c'ha ragione. Però fatemi dare questa notizia che avevo annunciato. Il comune di Genova, tra le nuove regole per la movida, prevede che i commercianti siano responsabili in qualche modo dei comportamenti dei clienti. Proprio quello che diceva lei: devono provvedere a tenere pulito l'ingresso fino a 10 metri di distanza, collocare contenuti dei rifiuti, compresi i portaceneri, garantire il funzionamento dei servizi igienici, lavare ogni giorno davanti al locale. E qui non c'è scritto, ma insomma, in qualche modo spegnere la musica alle 10. No, spegnere la musica è un'altra cosa. In qualche modo preoccuparsi anche che chi sta diciamo seduto ai tavolini nel proprio locale non faccia troppo casino, vogliamo dirla così. Poi se alzare la voce, come diceva lei, rientra già nel casino, oppure stiamo parlando di sedare eventuali rischi o cose un po' più gravi, questo io non lo so. Però l'idea è proprio quella di responsabilizzare i gestori dei locali. E però i gestori dei locali si sono arrabbiati, sappia, caro amico ascoltatore, che non è così facile, caro Stefano, perché poi Perché è molto difficile. Un conto sono le forze dell'ordine, un conto è io che sono un gestore di un locale che devo sedare una rissa. Però io penso che sia giusto, no, se dare la rissa no, ma essere responsabili in qualche modo e essere i primi controllori che tutto insomma scorra liscio, credo che sia giusta come richiesta. Io tempo fa mi è capitato una sera di fare una lunga chiacchierata col gestore di quella enoteca meravigliosa che c'è, adesso lo dico, sembra di fare pubblicità, in una zona diciamo del centro di Milano, zona Sarpi, e lui sono 20 anni che è lì, lui tutte le sere va a parlare con Tizio e con Caio che hanno alzato il gomito perché tornandosi in enoteca succede spesso, e insomma dice qualche sera qualcuno voleva anche alzarmi le mani addosso, però io lo faccio perché penso sia giusto nei confronti del quartiere che mi ospita. No, ma è così, e l'ho trovata una cosa bellissima, la conosco bene ed è molto difficile. Sì, tipo in Cascina Cuccagna è molto difficile, sì. Noi chiediamo alle persone di parlare sottovoce addirittura, però ripeto è molto difficile anche perché io spesso mi sono trovato dall'altra parte, ovvero con i gestori che mi dicevano di abbassare la voce. Va bene, Stefano, è ancora lì? Sì. Insomma, dicevo, sono contentissimo di questa cosa. Se faranno così i gestori anche qui in via Santa Maria, prometto che vado a piedi a Montenero. Bravo, che è a Livorno, tra l'altro, per cui per un pisano è il massimo dello sforzo. È tutto dire. Ciao Stefano, grazie, buona domenica. Grazie mille, buona domenica. C'è il traffico, torniamo tra un attimo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dentro i colpevoli e fuori i nomi. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Sul mercato canta il violino. Ballata dell'impunità. Vogliamo il ladrone, sfogliamo tutti i loro nomi. Terremoto ed eclissi al sole, le persiane ti ascoltano. Abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare. Furie, piombo, sangue, sangue. Parliamo della questione dei migranti, purtroppo insomma barconi che continuano ad arrivare, centinaia di vittime purtroppo ancora questa settimana, uno dei naufragi più tragici della storia del Mediterraneo, opinioni pubbliche preoccupate per quello che sta accadendo, paesi che si rimbalzano la responsabilità, l'Inghilterra ha detto sì daremo una mano all'Europa ma non vogliamo profughi, partiti politici che a volte strumentalizzano anche queste vicende e comunque lanciano degli allarmi più o meno giustificati, e però sembra che questa questione del traffico dei migranti e degli esseri umani non sia stata ancora messa a fuoco decentemente. Sappiamo che ci sono delle inchieste da parte della procura di Agrigento, di Catania, che però hanno le armi spuntate perché i trafficanti si muovono, ormai questo lo stiamo capendo, a un livello molto molto alto, e allora cerchiamo di afferrarlo questo livello. Ne parliamo con Roberto Malini di Everyone Group. Una buongiorno intanto, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Buongiorno. Una organizzazione non governativa che si occupa della difesa dei diritti umani dei migranti, e che è una notizia che mi ha colpito in questi giorni leggendola, qualche settimana fa ha consegnato alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, una lista con i nomi di alcuni di questi trafficanti. Come siete riusciti a arrivare a questo? Bene, se noi da diversi anni lavoriamo in contatto con prevalentemente con due associazioni, due organizzazioni per i diritti umani, una è New Generation Foundation for Human Rights e l'altra è America Team for Displaced Eritreans. Sostanzialmente noi abbiamo la possibilità, lavorando da tanti anni a contatto con i migranti e i profughi, sì, di intervistarli dopo l'arrivo nell'Unione Europea, quindi abbiamo utilizzato questa possibilità per ascoltare centinaia di di profughi e di rifugiati, e quindi chiedendo loro poi alla fine i riferimenti di chi avesse organizzato i loro viaggi. Quindi sono proprio loro che vi svelano, diciamo, quello che sono riusciti loro stessi a capire, perché poi avendo pagato dei trafficanti sicuramente hanno degli elementi da riferire, da raccontare. Cosa vi raccontano? Assolutamente sì. Diciamo che noi siamo riusciti a raccogliere una lista di una ventina di boss del traffico di migranti di nazionalità sudanese, eritrea, egiziana, con fortissimi riferimenti anche nell'Unione Europea. Parliamo di boss, quindi di persone ad alto livello che organizzano i viaggi, raccolgono i fondi attraverso una rete di persone posizionate sia nell'Unione Europea che nei paesi della i migranti con cui parlate voi hanno contatti diretti con questi boss, oppure questi boss sono così avveduti da usare delle reti, degli imprenditori, degli intermediari, e quindi diciamo arrivare poi all'apice della rete è più difficile, immagino. Ovviamente, no, è per questo che parlavo di un numero alto di migranti, perché chiaramente la maggior parte dei migranti hanno dei contatti mini, quindi con l'ultima persona, l'ultimo personale. Lo scafista, per intendersi. Alcuni di loro invece hanno contatti forti con i boss, e noi quando definiamo un boss vuol dire che abbiamo già comparato decine di testimonianze. Oltretutto noi poi non ci è bastato naturalmente dare nomi, sì. Abbiamo dato una lista con nomi, numeri telefonici, fotografie personali, quindi a volte addirittura fotocopie del passaporto, e siamo riusciti a avere anche questo, e indirizzo dei covi. Quindi quando ci siamo mossi abbiamo dato alle autorità la possibilità intervenire massicciamente e direttamente per fermare i traffici. Senta, quali sono i profili che emergono da parte di questi boss, che lei li ha definiti così, insomma, di questi trafficanti? Che personaggi sono? Sono personaggi che, come avviene anche nelle mafie italiane, hanno fatto tutta la carriera partendo dal piccolo crimine per arrivare poi a gestire ingenti somme di denaro, quindi hanno una grande esperienza e purtroppo hanno anche sanno che questo genere di affari viene trattato con estrema crudeltà. Infatti noi sappiamo che attualmente i migranti prima del viaggio vengono tenuti in delle vere e proprie carceri, e vengono tenuti incatenati, vengono sottoposti a torture, violenze di ogni genere. E questo perché? Perché poi in contatto diretto con i telefonini, con i parenti che si trovano in Europa o in altri paesi, chiedono dei riscatti molto forti, da 10 a 15, di pagamento del viaggio sarebbe, sì, ovviamente un riscatto in realtà, da 10 a 15 mila euro, e quindi spesso fanno sentire che se non pagano subiscono torture, urlano al telefono, cosa che poi è reale, perché realmente subiscono torture, stupri, violenze di vario genere, tra cui infatti molti di loro spesso si trovano con i segni di queste torture subite. Quindi alla fine è veramente un'organizzazione criminale mirata, e approfitto del fatto che l'unica via ormai per i migranti è questa traversata, per estorcere molto denaro con metodi estremamente crudeli. Perché ancora oggi, in una intervista che è sui giornali italiani, sulla Stampa per esempio, del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, il segretario dice che la risposta a quello a cui abbiamo assistito ancora qualche giorno fa, cioè al naufragio, a centinaia di vittime, è oltre che rafforzare i mezzi, diciamo, i controlli e la sicurezza, ma soprattutto dal punto di vista delle Nazioni Unite, creare dei modi per migrare dai luoghi di guerra alternativi, cioè dei corridoi umanitari, eccetera eccetera. Questa cosa si sente dire costantemente ogni volta che c'è una tragedia, però poi nemmeno le organizzazioni, diciamo, direttamente coinvolte, tipo le Nazioni Unite, perché io da chi posso aspettarmi che faccia una cosa del genere se non dall'Europa o dalle Nazioni Unite, arriva mai una risposta. Tecnicamente come sarebbe possibile invece fare questo, cioè dare una risposta che non sia quella dei trafficanti al bisogno dei profughi, dalle persone che vengono dai luoghi di guerra, di spostarsi, insomma, e di andare in zone più tranquille? Sì, ovviamente non è soltanto un problema delle Nazioni Unite, è un problema che riguarda anche tutti i governi, perché diciamo, i piani adesso di intervento dovrebbero essere due: uno, visto che ormai purtroppo questi flussi migratori via barcone ci sono, procedure adeguate che attualmente non ci sono assolutamente per evitare morti in mare. Ma se vogliamo andare a monte, certo, noi dovremmo pensare in una società civile, e secondo quanto prevede la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, lo spostamento di un cittadino che si trovi male o è perseguitato debba essere automatico e garantito e facilitato, questo invece non avviene. Quindi noi dovremmo pensare in realtà alla possibilità dei profughi di spostarsi con normalissimi voli di aereo, nel paese che raggiungono dovrebbero poter incontrare una commissione formata da Nazioni Unite, quindi dal commissario per i rifugiati e da ovviamente dalle autorità del paese, presentare le credenziali relative a un asilo politico e poi vedersi rifiutato oppure accettato il procedimento, quindi la domanda. Questo dovrebbe avvenire in un paese civile, quindi la possibilità di spostarsi liberamente e di avere una decisione da parte di una commissione, e questo sarebbe però affrontare il problema da un punto di vista umanitario. Attualmente non viene affrontato da un punto di vista. Probabilmente perché i governi valutano la questione anche da un punto di vista del consenso elettorale, una cosa del genere non riscuoterebbe grandi consensi. Qualcuno ha chiesto proprio per questo, per esempio al Vaticano, con la sua rete, insomma la Santa Sede, no? Con la sua rete diplomatica in giro per il mondo, di contribuire ad aprire questi corridoi umanitari in qualche modo. C'è qualche stato, qualche paese, il Vaticano sta facendo qualcosa in questo senso? C'è qualcuno che si muove nel senso in cui chiedete voi, le ONG che si occupano dei diritti, in cui chiede anche le Nazioni Unite, però sembra che non si apra nessun varco da nessuna parte. Questo è vero. Noi nel 2012 abbiamo ottenuto una risposta da parte della Commissione Europea, dove noi l'abbiamo anche pubblicata nel nostro sito, una lettera di 2 pagine, dove la Commissione Europea riconosce che le procedure che noi suggeriamo sono razionali e valide e si impegna a mantenerle e a chiamarci anche come consulente della Commissione Europea. Questo era un bellissimo passo che noi abbiamo festeggiato, però poi, come avviene sempre in questi casi, poi invece la Commissione Europea si è tirata indietro e si è continuato a spendere centinaia di milioni di euro in maniera non razionale, quindi diciamo sostanzialmente in gran parte sprecati. Bisogna anche tener conto, quando si parla di corridoi umanitari, si parla prevalentemente di protocolli umanitari per salvare vite umane, e attualmente questi non esistono. Infatti il problema del salvataggio in mare è veramente prioritario, perché oggi si basa su intervento di navi mercantili che non hanno alcuna preparazione per salvare i migranti in mare, quindi non hanno personale sanitario. Questo è un procedimento assolutamente iniquo, mentre sappiamo che per esempio le navi della Marina Militare hanno l'attrezzatura per questo genere di intervento, ma poi non intervengono. Noi crediamo che non bisognerebbe fare né l'una né l'altra cosa. Noi dovremmo attrezzare veramente navi ed elicotteri di soccorso con strutture e protocolli di salvataggio molto chiari prima, durante e dopo il trasbordo, perché il momento in cui si avvicina il barcone in pericolo è molto particolare, è il momento in cui possono avvenire molte morti, quindi prima di intervenire deve essere messo in sicurezza il barcone. Sì. Sì, un'ultima cosa che le volevo chiedere, Roberto Malini di Everyone Group, è questa. Questa lista che avete consegnato con i nomi dei trafficanti alle Nazioni Unite e al Consiglio Europeo verrà utilizzata? Cioè, siamo in grado di dare una buona notizia? Questi trafficanti hanno diciamo le ore contate dal punto di vista della loro libertà personale, o qualcosa si sta muovendo? Allora, noi abbiamo già fatto una cosa simile nel 2009 in Egitto per i trafficanti, sì, del Sinai, sempre con le stesse 2 associazioni, e abbiamo dovuto attendere circa 3 anni per i primi interventi. Purtroppo nel frattempo sono stati torturati, uccisi un sacco di persone, però poi c'è stato un intervento massiccio, sono stati chiusi i covi, quindi l'intervento c'è stato. Attualmente noi abbiamo notizie di minimi interventi, quindi probabilmente la lista è stata passata alle autorità locali e le indagini sono in corso, però sempre con queste procedure assolutamente lente. Bisogna continuare. Noi sappiamo che non dobbiamo pensare che già il problema è risolto. Abbiamo passato 2 volte la lista, una in febbraio e un aggiornamento, perché poi noi le aggiorniamo quando per esempio cambiano i telefoni dei trafficanti, e un aggiornamento in marzo. Sappiamo che dovremo attendere e sollecitare, sì, più volte, perché non è automatico. Beh, insomma, da questo punto di vista grazie, io lo dico a nome anche di chi ci ascolta, per quello che fate, perché risalire ai nomi dei trafficanti, stare dietro alle autorità internazionali affinché poi cerchino di andare a prenderli, è una cosa meritevole. Le volevo chiedere una cosa che probabilmente è molto stupida, ma un migrante che spende $20,000 per arrivare in Italia, ma non può prendere un aereo, per quale motivo? Perché non ha il passaporto, oppure perché se prende l'aereo appena arriva qua viene arrestato perché non ha il permesso di soggiorno di lavoro? Sì, esatto, ci sono 2 formule in cui, a parte queste 2 formule sono difficili lo stesso, non è così automatico, però ci sono 2 formule in cui potrebbe venire con un aereo, cioè o avere dei parenti di primo grado in un paese, quindi un ricongiungimento, oppure avere tutti i documenti in regola, il visto e in più un'offerta di lavoro, un'offerta di lavoro o dimostrabile, oppure una sufficiente quantità di denaro per poter sopravvivere qualche anno nel paese dell'Unione Europea, cosa che veramente per ma se spende 20.000, se ha 20.000 dollari da dare allo scafista o all'organizzazione, non è che questo, sì. Lui non ha nulla quando in genere ha contatto. Lo scafista lo prende in mano e gli chiede da 1.000 a 2.000 euro, che poi si trasformano in questa cifra che diventa un'estorsione, e quindi il profugo che ha messo insieme questi 1.000 a 2.000 euro o dollari si indebita per la vita. No, comincia a chiamare i familiari, comincia a chiamare i parenti, gli amici, e per mettere insieme, per raccogliere questa somma. Quindi è veramente una specie di calvario, perché certo, chiede prestiti, si impegna, i familiari spesso vendono la casa. Ma tutto questo mi è chiaro. La domanda che, ripeto, forse era stupida, mi chiedevo come mai, se uno prende l'aereo e arriva qua, poi probabilmente qua viene arrestato, tanto quanto viene arrestato nel momento che scende da un barcone. Non lo può prendere perché già il controllo nello stato di partenza gli impedisce, senza documenti di viaggio. Se non hai documenti di viaggio, certo, quindi è quello. Grazie Roberto Malini, Everyone Group, buona domenica, grazie per essere stato con noi. E, insomma, la notizia che a me aveva colpito è questa, insomma, una ventina di nomi di trafficanti a cui sono risaliti, e insomma adesso le Nazioni Unite e l'ONU e il Consiglio Europeo hanno questi nomi in mano. Esempio, ci vorrà tempo, però insomma, la speranza è che prima o poi li becchino. E tra l'altro questo ci porta anche nella direzione di dire che uno degli strumenti più utili per fermare il traffico dei migranti, dei clandestini, è uno strumento di giustizia internazionale, Eurojustice, qualcuno ha evocato questa settimana, insomma, a livello europeo, non però qualcosa, non può essere la procura di Catania. Esatto, quando non sentiamo qualcosa che gravi solo sull'Italia, questo è in dubbio. E in più ricordiamo che non sono gli scafisti, che c'è questa idea che il colpevole sia lo scafista è un po' l'ultima ruota del carro, è un po' come arrestare un push e pensare di aver bloccato i narcotrafficanti. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, facciamo Marisa, che ci chiama da Asti, intanto, prima di andare in pausa. Buongiorno. Buongiorno Alessio. Eccoci. Buongiorno, qua Marisa, su cosa voleva intervenire? Sul gioco forse? Sì, sul gioco, volevo dire il treno Frecciarossa 1000. Il personaggio della settimana, secondo lei, che ha fatto un lungo viaggio e che è un personaggio femminile, il Frecciarossa 1000. Ma è femminile, sì, il Frecciarossa 1000? Frecciarossa, sì, Frecciarossa è femminile. Treno no, ma Frecciarossa sì. Perché la Frecciarossa. La freccia, e quindi le frecce. Ah, Marisa, è vero. Perché in effetti la notizia sul Frecciarossa di questa settimana qual è stata? È Mattarella. Mattarella che ha inaugurato ieri. Certo. Con Cracco hanno fatto colazione insieme. Io sono molto curioso, perché pare che questo treno ci metta poco più di 2 ore per portare da Milano a Roma, quindi diciamo per gli attori che devono andare un pochino di più. Perché fino al 14 di giugno non metterà 2 ore. Perfetto. Per adesso va a 300 km all'ora e poi andare a 360 km. Sì. Beh, informatissima, guida i treni? Sul pilota i treni lei? No, li ho usati nei tempi passati, ora non più ora. Perfetto, grazie Marisa. Non era questa però possiamo dire che è più vicina di altre persone che hanno risposto. Grazie a lei. Aggiungo un indizio perché altrimenti sono 10:34. Dove andiamo? L'indizio è questo: il personaggio è americana, perché abbiamo detto è un personaggio femminile, ha fatto un lungo viaggio, è americana, aggiungiamo, ma di origini francesi. Esatto. Sì, allora l'indizio giusto completo è questo: è americana ma di origini francesi, ha fatto un lungo viaggio e va bene. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori tra poco. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Andiamo agli ascoltatori, abbiamo Enzo che ci chiama da Firenze. Prima di andare a dare una notizia incredibile, perché parliamo di un museo nuovo, particolare, che è aperto in questi giorni. È inutile che mi guardi, lo dovrei dire tu Alessio, lo dovrei dire tu. Dopo però, dopo che ha parlato Enzo. Buongiorno Enzo. Buongiorno a voi, buongiorno, complimenti. Grazie. Intanto scusate, ma mi permetto, ci tengo prima a dimostrare la mia massima stima per il signor Marini che è intervenuto, rappresentante dell'ONG, a lui e a tutti quelli che fanno il suo lavoro. Grazie, detto mi sembra questo, una bella cosa. Detto questo, io abito nel centro storico di Firenze, volevo intervenire per quanto riguarda il discorso sulla Movida. Siccome ha chiamato qualcuno da Pisa, lei dice, non è che io di Firenze non chiamo no, anch'io, no. Giusto? Io sono vivo a Firenze, ma non ho detto fiorentino, sono di adozione, sono piemontese, fiorentini si nasce, io sono vivo a Firenze. Ma noi l'accettiamo lo stesso, ci dica della Movida. Detto ciò, io volevo non spezzare una lancia a favore della Movida, non proprio così, però volevo fare una piccola riflessione sul fatto che su questo argomento, come su tanti altri, anche molto ben più seri, secondo me l'italiano medio, passatemi il termine, ha poca memoria storica. Ora, si usa il termine Movida, è stato coniato negli ultimi anni e prima non c'era, ma ciò non toglie che, diciamo, la festa in strada, tutto un po', non ci fosse in passato. Io prendo ad esempio Firenze perché appunto ci vivo. Io vivo nella zona più turistica, sono venuto a vivere 4 anni fa, e diciamo nel momento in cui uno sceglie di vivere in un quartiere del genere è consapevole che di sera, soprattutto nel fine settimana, la confusione sarà tanta. Capisco chi c'è nato e cresciuto e che si ritrova magari negli anni un quartiere che era più tranquillo esplodere i locali ne soffra. Però voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Per quanto riguarda un altro quartiere di Firenze, cioè l'Oltrarno, c'è una piazza, sì, che è la piazza Santo Spirito, che è un po' il fulcro di tutto il quartiere della, diciamo, Movida. Ci sono i residenti che fanno grandi battaglie, e chiacchierando con il papà di un nostro amico ci siamo ritrovati a chiedergli: ma una volta com'era? E lui ci ha detto che 40-50 anni fa la situazione non era diversa, anzi c'era già gente che si lamentava, gente che... No, sì, allora sì, diciamo sulle lamentele non immagino di sì, ma non è che ci ha detto più di tanto. Ci ha raccontato un aneddoto per farci capire quanti aneddoti hai dentro. È una scatola cinese di aneddoti. Abbiamo ancora 20 minuti, dobbiamo fare un po' di cose, però non so. No, Enzo, vedi tu. Ci raccontava che il bar centrale di Santo Spirito, sì, da mezzanotte in poi aumentava la consumazione di 2000 lire perché c'era talmente tanta gente in piazza che dava per scontato che i bicchieri non sarebbero tornati. Perfetto. E il giorno dopo la, sì, piazza era un tappeto di vetri di bicchieri. E questo non andava bene. Mi sembra molto interessante quello che in realtà racconti lungamente, però mi sembra interessante perché sembra sempre che sia un problema dei giovani d'oggi, invece non è così. Semplicemente bravissimo, che un tempo si ballava il liscio, oggi si balla la musica elettronica, ma è rimasto tutto uguale. Anzi, se posso dire, direi che sono molto più restrittive le regole. Cioè, quelli che ballavano il liscio fino a 50 anni fa in giro per le strade ed erano contenti così, adesso vietano i giovani d'oggi di sentire la musica perché possibilmente gliela fanno spegnere alle 11 oppure obbligare a chiudere tutte le finestre e bisogna morire di caldo. Vabbè, questa è la tua visione delle cose, sì, però devo dire, sì, che è la mia visione la delle penso cose. Anch'io ogni tanto la penso anch'io questa cosa. Enzo, grazie, salutiamoci qua perché la Movida fiorentina meriterebbe, ma chiamaci per i prossimi 20 aneddoti, meriterebbe un'altra puntata a parte. Però per citare di nuovo il sindaco di Bari De Caro, com'è che ha detto, è come se fosse la pallina intorno al cucuzzolo, in cima al cucuzzolo, cioè è un equilibrio sempre instabile, instabile. Adesso è il momento di parlare di questo museo davvero speciale che viene presentato domani. Sentiamo. È questo lì, no, del corpo sciolto, lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché cancano soprattutto è cosa umana. Ebbene sì, domani viene presentato ufficialmente il Museo della Merda. scusate il francesismo, ma hanno deciso di chiamarlo così. Non pensiate che sia una cosa stupida, forse o una buttata. Una buttata, perché la presentazione avviene al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, cioè un luogo serio di scienza e tecnologia. È un'iniziativa questa che nasce dal suo ideatore Gianfranco Locatelli, che è qua con noi. Buona domenica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Gianfranco Locatelli. Mi chiamo Gianantonio. Gianantonio, mi scusi, errori della redazione. Volevamo pestare una merda, come si suol dire. Iniziamo subito, così siamo in feeling. Gianantonio Locatelli è proprietario di un'azienda agricola a Castel del Bosco. Castel Bosco. A Castel Bosco, e siamo già a due errori. Seconda di merda. Io aprirò il museo della figura di merda, della quale sono assolutamente un campione, della GAF, per dirlo con un vero francesismo. Siamo partiti alla grande. Lei è proprietario di un'azienda agricola che fa latte per il Grana Padano, produce latte, le sue, insomma, i suoi bovini, le sue mucche, e quindi è abituata a starci in mezzo, diciamo così, allo sterco, e adesso ha avuto questa idea. Sì, l'idea è nata soprattutto dall'eccessiva produzione di questi materiali, che in effetti all'inizio ci avevano causato un po' di problemi di smaltimento, soprattutto sull'ambiente, no? Sì. Quindi, perché l'eccesso dove di la mettiamo tutta questa Poi c'era anche il problema di metterla da qualche parte, perché in effetti poi ha scoperto che con lo sterco di mucca si può fare il metano, il concime per i campi, questo già lo sapevamo, ma addirittura la materia grezza per gli intonaci, i mattoni, i castelli, ah no, quello no, è la sabbia, chiedo scusa. No, in effetti la nostra idea era quella di partire da una cosa primordiale, cioè di rivalutare questo materiale che è sempre stato usato dall'uomo primitivo, cioè risvegliare un po' l'uomo di Neanderthal che era in noi, cioè quello di usare appunto la merda. Una volta veniva utilizzata per costruire, per riscaldare, e quindi ci sta dicendo che questo uso dello sterco degli animali per fare l'intonaco, per esempio, per costruire dei mattoni, viene dal passato. Sì, viene dal passato, perché in effetti una volta si costruivano le capanne perché che proprietà cose ha rispetto ad altre, diciamo, questo La proprietà dei mattoni, per esempio, potrebbe essere quella, primo, di un risparmio energetico, certo, perché si produce non naturalmente. Risparmi della terra, che invece ce l'hai, hai un materiale di recupero. Poi hai degli aspetti di isolamento che sono veramente importanti, ma siamo solo all'inizio di questa storia, perché il museo uno però potrebbe poi immaginarsi che la casa costruita con i mattoni di merda crolli oppure che insomma, adesso, sia malodorante, adesso, che puzzi, insomma, no? Adesso no, prima di tutto la questione della puzza è una cosa che abbiamo risolto a monte, perché come? Perché il metano, che è la parte puzzolente della merda, viene utilizzato per fare l'energia elettrica, quindi noi abbiamo diversi vantaggi. Cioè, quindi proprio ma nella sua azienda fate già questo? Allora, devo spiegarvi tutto dall'inizio, perché uno non riesce a capire. Cioè, noi praticamente che siamo i primi produttori nazionali di latte per Grana Padano, sì, e in parte anche lo produciamo. Questo l'abbiamo detto. Sì. Cioè, diamo da mangiare agli animali per fare il latte. Col latte viene fatto il formaggio. Sì. Con gli escrementi di questi animali, noi come prima cosa produciamo insieme a qualcos'altro, però in maggior parte è predominante l'utilizzo di queste deiezioni che sono lì. Sì. Per l'energia elettrica. E facciamo l'energia elettrica. L'energia elettrica viene ricavata soprattutto dalla fermentazione di questi materiali. Ok, ma la fate proprio voi questa produzione di energia? Facciamo tutto noi in azienda. Perfetto. Abbiamo dei motori con degli alternatori che bruciano il metano. Ok, fate anche il resto, cioè tipo per esempio questi intonaci, questi mattoni, siete in grado, oppure adesso cosa principale che noi facciamo è fare il latte, il formaggio, va bene, questo l'abbiamo capito, questo l'abbiamo capito. Senta Locatelli, mi dice una cosa, tanto poi il museo viene presentato domani a Milano, cosa il museo c'è già effettivamente? Il museo c'è già, però è un excursus storico, sì, sull'utilizzo della merda dall'uomo primordiale. Ma lei non usa sinonimi? Lei non usa mai sinonimi, cioè usa sempre quella parola lì, è il vostro brand del resto. Cosa? No, la parola merda, dico, non usa mai dei sinonimi. Io non uso il sinonimo perché voglio definire il materiale più per schifoso che viene elevato, giusto, a qualcosa di valido per da utilizzare. Certo. Ma che cosa si vede? Perché se anch'io lo chiamassi letame, come sì, tanti certo, mi consigliano di chiamarlo, sminuirei il valore della parola. Vabbè, perché sì, no, è solamente che è domenica mattina, noi siamo ben contenti, sì, di bene, presentare il museo della merda, è che alla decima, alla quindicesima volta ci chiedevamo che cosa si può vedere in questo museo, perché uno dovrebbe venire al museo della merda. Prima di tutto è coniugato con l'arte, con la cultura e con tutto quello, sì, con la quale la nostra materia, perché è venuto a contatto in tutta la storia, cioè con tutti, quindi tutti i personaggi storici prima o poi hanno fatto la cacca. No, ma non è proprio così banale. Io sono mi occupo di arte concettuale, è una cosa molto più concettuale. Ma lei è poliedrico, la merda di Manzoni, direi. Lei è poliedrico. Non può mancare. Anche Manzoni, cioè io non voglio accreditarmi delle cose, cioè Manzoni lo stimo tantissimo, è stato un grande personaggio che nel 61 fece la merda d'artista. Vabbè, Locatelli, quanto costa il biglietto? L'ultima cosa che ci diciamo per entrare al museo della merda? Non abbiamo ancora parlato di questi dettagli, diciamo che siamo impegnati su delle cose più importanti adesso, cioè è una cosa molto creativa la nostra, cioè sì. In bocca al lupo grazie, per questa iniziativa che comunque è dignitosa, cioè ha ragione, non lo so, intorno alla è molto allo sterco bella, ci girano tante cose, è vero, tutto. C'è tutto materiale di recupero, tutta una tradizione e dalla merda nascono i fiori, questo lo diceva anche De André, e poi il museo mi sembra che ancora sia un po' lì, non c'è il prezzo perché forse si può pagare con delle produzioni casalinghe, ognuno nel proprio bagno dice con questa ci puoi fare 2 kilowatt. 800 24 00 24, cari amici ascoltatori, dovete indovinare il personaggio della settimana, quindi vi aspettiamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, abbiamo in linea Maurizio da Parma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Prego. Su cosa voleva intervenire? Voleva indovinare il personaggio. Volevo provare a dare la risposta. Sì, chi è? Oggi. Per me è la Statua della Libertà di New York. Bravo Maurizio, vedi che l'ultimo indizio è stato quello decisivo, credo. Complimenti, complimenti. Sì, decisamente è stato l'ultimo. Qual è la notizia? Che... Bravo, così riepiloghiamo. Qual è la notizia legata? La notizia dovrebbe essere che in settimana, se ricordo bene, è stata evacuata per un allarme. Bravo, esattamente. Esatto, esatto. Esattamente, ci sembrava anche bello il giorno dopo la liberazione avere come personaggio la Statua della Libertà. Esattamente, io infatti ho pensato a quella essenzialmente anche per il lungo viaggio dell'uomo verso la libertà, più che il viaggio della statua in sé. Perfetto. Beh, tutte e due le cose, tutte e due le cose. Ha vinto un weekend che durerà 40 giorni invece che il classico weekend da due giorni. Grazie, un weekend messo a disposizione dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, grazie al Comune di Parma, all'Hotel San Marco, hotel a 4 stelle, tra l'altro. Bravo Maurizio, complimenti. Io nel frattempo sono andato a controllare a Parma, una cosa. Perfetto, Parma su Parma hanno vinto. Parma su Parma, bravo. Perfetto. Vero, non so se Maurizio è contento di non doversi non devi, praticamente esci di casa ed è alla porta di fianco. Che coincidenza. Io intanto sono andato a controllare al museo, sul sito del Museo della Scienza e della Tecnologia, se il davvero biglietto. Lunedì fanno la presentazione del Museo della Merda, e lo fanno. Certo. E quindi, cari ascoltatori, quello che avete sentito non era frutto della nostra immaginazione, ma bensì una realtà. Adesso è il momento delle notizie sul crowdfunding, vai! Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no, no! associazioni, iniziative anche individuali a caccia di fondi grazie alla solidarietà della gente, ma soprattutto grazie agli strumenti della rete. E ritroviamo il nostro Federico Taddia. Ciao Fede, buona domenica. Buona domenica a voi, eccoci qua. Ciao Fede. Ciao. Allora, oggi dove ci guidi nei meandri del crowdfunding? Allora, la prima segnalazione è sicuramente l'aspetto più curioso della settimana, piacerà molto a Carlo, perché a Londra è stato lanciato un crowdfunding per aprire il primo cinema al mondo per uomini e gatti. Uomini e gatti, è bellissimo, è oltre Steinbeck, cioè dopo uomini e topi, uomini e gatti. Sarebbe il primo cinema cat friendly e l'idea è che stanno cercando 50.000 sterline per aprire questa sala dove tu potrai entrare col tuo gatto e vedere il film appunto mentre lo accarezzi comodamente sulle tue ginocchia, e non solo, perché l'idea è anche quella di prendere 10 gatti randagi dal gattile e trasformare questo cinema nella loro dimora, in modo che tu puoi anche andare al cinema senza gatto e lo trovi lì, insomma, te lo trovi lì il gatto. E lì lo trovi. Ma è stupendo, e direi che c'è sempre in programmazione la carica dei 101, di modo che tutti i gatti si terrorizzino, perché non Risto Gatti, ma la carica dei 101. Scusa. In verità c'è anche al di là della... dello scherzo, c'è anche finalità da pet therapy, nel senso che loro vogliono anche favorire appunto il cinema per magari persone con disagio mentale o persone che comunque nell'incontro con l'animale possono trovare serenità, tranquillità, quindi ci sono anche doppie finalità. Su Indiegogo Grit Cat si chiama il progetto, e c'è la possibilità insomma di donare per l'apertura del primo cinema per gatti a Londra. Le ricompense quali sono? Ci sono? Le ricompense sono biglietti gratis per entrare al cinema, e quello lì è facile. E dei guanti di gatto. Le palette anche, e secchielli, e lettiere. E il secondo progetto invece è molto più piccolo, molto più a misura d'uomo, ed è un sogno, è il sogno di due ragazzi che vivono a Berlino e sono nati entrambi a Rovigo, una coppia, lei lavora in un asilo bilingue italo-tedesco, lui invece come sviluppatore web, e hanno deciso di tornare a casa. Hanno detto: questo periodo all'estero ci hanno fatto rinnamorare la nostra terra, del Polesine in particolare, vogliamo tornare a casa e lì aprire un'azienda biologica. Stanno cercando 1.000 euro perché hanno deciso di tornare in bicicletta e cercano il finanziamento per questo viaggio, perché per loro questo viaggio è una ricerca introspettiva per capire se veramente trovano i fondi, intanto che vogliono trovare fondi pubblici e finanziamenti per aprire la loro azienda biologica, ma soprattutto la carica della gente, l'appoggio per realizzare questo progetto. 1.000 euro per questo viaggio in bicicletta, e sono qui molto belle le ricompense, con 10 euro la cartolina, con 15 euro un ricordino, ma con 40 euro ti daranno la loro prima cassetta di ortaggi del primo raccolto. Mi sembra poetico, molto bello, poetico, è anche una richiesta non particolarmente esosa, insomma, quindi si può fare assolutamente. Produzioni dal basso è la piattaforma, poi tutti i link li troveremo ovviamente sul sito di Si può fare e di Radio 24. Fede, abbiamo ancora 30 secondi o per i saluti o per un'altra segnalazione, oppure per tutte e due. Una segnalazione molto veloce. Vai. Su bcrowdfunding.com, piattaforma anche questa di crowdfunding, la via degli asini, 7.000 euro per fare un festival itinerante in Valle Noce, siamo in provincia di Parma, 4 giorni in cui gli artisti viaggiano con gli asini di paese in paese, di Appennini al mare, e ovviamente il pubblico deve seguirli. La via degli asini mi sembra una cosa, la processione degli asini, beh sì, me la immagino già c'è la riscoperta degli asini in questo periodo, chissà perché. Fede, grazie mille, ciao. Ma tu intanto, tu però non sei sull'asino, sei in treno, dove sei? Sono in treno, sono andando al Festival delle Resistenze Contemporanee di Bolzano. Oggi parliamo del raccontare storie belle. Bello. Praticamente un Si può fare fuori onda. Tra l'altro il Festival delle Resistenze Contemporanee di Bolzano è un appuntamento molto, molto ricco. Saluta tutti, ciao Fede, grazie. Ciao. L'anno scorso c'ero stato anch'io. Allora, siamo in chiusura, no? Dobbiamo proprio chiudere e salutare tutti. Sì, ringraziamo Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta, insostituibile da qualche domenica domenica insieme a noi. Peter Bescapè in regia, abbiamo salutato tutti, detto sì, tutto. Ciao, buona domenica da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi, anche a chi ci ascolta in podcast. Ci vediamo lunedì a Costa Masnaga, alla biblioteca, alle ore 21, che presento il libro, e se no il 30 aprile a Verona alle 18 in Feltrinelli. Con noi invece sabato prossimo. Ciao, ciao.